La Confederazione Generale del Lavoro, come è noto, fu costituita a Milano nell'ottobre del 1906 su iniziativa di un gruppo di sindacalisti riformisti che si autosciolse nei primi giorni di gennaio del 1927 sotto i colpi della violenza legale ed extralegale del fascismo, ormai avviato verso la costruzione di uno Stato e di un sistema politico-istituzionale completamente dittatoriale. La durata del massimo organismo sindacale, in pratica della più consistente organizzazione di massa dei primi due decenni del secolo, si deve considerare pertanto abbastanza esigua. In 20 anni si consuma un processo di portata storica, si costruisce, si consolida e viene completamente distrutto uno dei principali strumenti, non solo di difesa economica, ma di emancipazione politica, morale e civile, costruito dalle classi popolari ed in primo luogo dal proletariato dell'industria e dai lavoratori della terra. Questo fenomeno appare ancor più significativo ove si consideri che lo sgretolamento e la distruzione delle organizzazioni sindacali fu parte integrante di un processo complessivo di degradazione profonda delle strutture dello Stato e della società liberale. Per comprendere a fondo i caratteri peculiari del movimento sindacale confederale ed insieme per cogliere la ragione di una così breve e tragica esperienza, bisogna sottolineare come la storia della CGDL scorra coeva a due fenomeni, uno politico ed uno economico-sociale, che mentre ne legittimarono la Costituzione ed il rapido e notevole consolidamento, ne acuirono ben presto i limiti e le contraddizioni ed infine ne accelerarono la crisi e la distruzione. Questi due fenomeni sono stati ormai messi a fuoco dagli studiosi con sufficiente precisione e con una relativamente perspicua correlazione e si possono sintetizzare da un lato nell'agonia o nel deperimento dello Stato liberale e dall'altro negli effetti sociali dirompenti che furono provocati da un processo di industrializzazione necessariamente accelerato perché ritardato e quindi fortemente concentrato, selettivo e squilibrato. Lo Stato unitario e la società nazionale fino alla fine del secolo XIX, diciamo fino al tentativo di colpo di Stato e agli inizi dell'espansione industriale, pur se solcati da contraddizioni laceranti, possono tuttavia considerarsi come caratterizzati da una sostanziale stabilità dei meccanismi politici e sociali principali. La prassi del trasformismo ne fu l'espressione al tempo stesso più emblematica e più veritiera. La ristrettezza della classe dirigente, così sociale che politica, la natura ed il ruolo rigidamente classista di uno Stato accentrato e burocratico, la considerazione che il problema del controllo delle masse e della prevenzione della rivoluzione sociale, divenuto drammatico dopo la Comune parigina del 1871, fosse risolvibile mediante la combinazione della repressione militare e della tutela paternalistica, tutti questi elementi, innestandosi su una struttura economica sostanzialmente statica e a prevalente configurazione agricolo-commerciale, avevano contribuito a radicare la convinzione di una naturale, tra virgolette, egemonia della borghesia su di una società scarsamente articolata e priva di autonomia civile, culturale e politica. Così ramificata era questa convinzione che la borghesia italiana non si diede neppure un'organizzazione politica moderna, uno strumento di coagulo dei suoi interessi materiali e ideali, né si preoccupò di definire una prospettiva generale comune di evoluzione della società e di gestione del potere statuale. Al contrario, essa si identificò tout court con lo Stato e il potere amministrativo e perciò stesso trasformò il problema dell'egemonia sociale in un problema di controllo repressivo da parte dell'autorità pubblica, quello del programma politico ed economico in una congerie di singoli provvedimenti di favore verso determinati gruppi di interessi, infine il problema dell'allargamento della classe dirigente in un mero processo di cooptazione. In questo modo, il complesso di forze sociali ed economiche che detenne il controllo del potere nel quarantennio successivo al compimento dell'unità nazionale mantenne una notevole stabilità interna, ma al prezzo di un irrigidimento delle strutture politiche e di una compressione delle forze sociali che rese drammatica ed incontrollabile la crisi, allorché il processo di industrializzazione assunse un'ampiezza ed una profondità inedite, provocando insieme ad una rapidissima dinamica della gerarchia delle classi sociali una altrettanto rapida dislocazione dello Stato. Ciò avvenne a partire dagli inizi del nuovo secolo e si concluse con una sostanziale alterazione dei connotati stessi della società e dei rapporti di classe entro il potere statuale intorno alla metà del secondo decennio del secolo. La staticità fu spezzata più che dall'industrializzazione, dalle forme e dai tempi con cui questa si impose in Italia. Forme e tempi, a loro volta, determinarono la rapidità e la profondità con cui si consumò in Italia la frattura tra sviluppo capitalistico-industriale e trasformazione in senso democratico delle strutture politiche e sociali liberali. Al centro di questa fase storica di crisi e di transizione ad un diverso assetto si colloca, come è noto, il tentativo di Giolitti e in relazione a ciò si chiariscono le ragioni essenziali così dell'innovazione che del fallimento della politica dello statista di Veronero. Giolitti si trovò di fronte contemporaneamente una serie di problemi che nelle altre nazioni l'evoluzione storica aveva diluito e scaglionato nel tempo. L'equazione comprendeva molte incognite. Alla necessità di allargamento della classe dirigente politica si aggiungeva una spinta da parte delle classi lavoratrici che colpiva la natura e i limiti stessi dello Stato borghese liberale. All'esigenza di favorire lo sviluppo economico si sommava l'aggressiva determinazione dei nuovi ceti imprenditoriali di trasformare quello sviluppo in un'espansione sfrenata, incontrollata e tendenzialmente monopolistica. All'esigenza di porre lo Stato quale supremo regolatore degli interessi e dei conflitti tra le classi si sovrapponeva una vocazione alla radicalizzazione dei contrasti, ben al di là delle semplici controversie economiche. All'inderogabile esigenza di realizzare alcune riforme importanti per modernizzare la vita del Paese e favorire una diversa mobilità delle risorse finanziarie si contrapponeva la tenace e sorda opposizione dei vecchi ceti privilegiati e parassitari, concentrati soprattutto nella parte più arretrata del paese, il mezzogiorno, e nei settori meno dinamici, in primo luogo l'agricoltura. È indubitabile che di fronte ad una così complessa e contraddittoria accumulazione di questioni irrisolte, Giolitti, pur non riuscendo a far quadrare il cerchio, che era impresa storicamente impossibile, si mostrò sostanzialmente all'altezza del compito. Egli infatti fu il protagonista dell'estremo e al tempo stesso del più valido e compiuto tentativo messo in opera dalla borghesia liberale di Stato di fronteggiare, mantenendo un ruolo di direzione e di egemonia, gli effetti sociali e politici dell'industrializzazione. Tutte le principali intuizioni su cui costruì il suo modello di relazioni politiche e sociali erano esatte. Inconfutabile era la necessità per lo Stato di arrivare ad una egemonia, o meglio ad un controllo sulle masse, radicalmente diverso dall'esperienza precedente. In sintesi, Giolitti tentò di realizzare un controllo politico sulle classi lavoratrici e soprattutto sul proletariato industriale, cioè un sistema di integrazione basato sul riconoscimento dell'esistenza del proletariato come classe, mediante l'adozione di una linea di condotta bilanciata tra la repressione, l'esercizio autoritario del potere ed il rispetto di una serie di conquiste economiche e normative purché maturate nell'ambito dell'accettazione del sistema politico-sociale vigente. Certamente, come vedremo meglio in seguito, questo non ha nulla a che vedere con l'allargamento democratico del sistema né con la costituzionalizzazione delle masse. È fondamentalmente il tentativo di risoluzione di un problema tutto interno alla classe dirigente, cioè quello di superare la precedente frattura, resa possibile dalla staticità e dalla scarsa articolazione delle classi sociali, non negando, ma partendo dalla maturazione di classe che era in atto ed assegnando allo Stato il compito precipuo di controllare e di incanalare questo allargamento della società. Con questo ruolo, a Giolitti sembrava possibile salvaguardare nella nuova condizione la funzione preminente e direttiva dello Stato e della sua borghesia. Nessun allargamento reale delle basi sociali, né tantomeno una trasformazione della natura dello Stato rientravano né direttamente né indirettamente nella costruzione giolittiana. Per altro verso, anche i rapporti con la nuova borghesia industriale erano pressanti e ineludibili. Se è corretto affermare che Giolitti puntò sull'industrialismo piuttosto che sul meridionalismo e ritenne di poter collegare la trasformazione politica liberale democratica all'espansione dell'industria, basando la sua svolta appunto su di un programma che sembrava recepire una larga parte delle aspirazioni economiche della nuova borghesia imprenditoriale, non è altrettanto esatto sostenere una piena e duratura congruenza tra la soluzione giolittiana e la linea di evoluzione della emergente grande borghesia degli affari. Il punto centrale del dissidio, che rese precario ed estremamente labile l'iniziale accordo dal quale prese avvio la svolta giolittiana, scaturì proprio da una opposta valutazione del ruolo dello Stato. Chi esamini con una certa attenzione i primissimi anni del nuovo secolo non tarderà a riscontrare un velocissimo logoramento di consensi alla politica rinnovatrice di Giolitti, logoramento sostanziato da due opposte tendenze. Per un verso esso era il frutto della mancata concreta traduzione in atto della politica riformatrice, seppellita praticamente con l'affossamento della riforma fiscale di Wallenberg. Per un altro derivava dall'emergere di un contrasto sostanziale su quella che era la parte propositiva dell'azione giolittiana, cioè il mantenimento del ruolo direttivo dello Stato sulle classi sociali, sui loro conflitti e il tentativo di condizionare attraverso gli aiuti e i sostegni della politica economica, monetaria e doganale gli stessi indirizzi dell'espansione industriale. Gli industriali, al contrario, avevano appoggiato Giolitti puntando su di una politica che funzionalizzasse più a fondo lo Stato ai loro interessi, non solo attraverso il protezionismo, ma attraverso una più attiva azione del potere politico in sostegno dei soli centri imprenditoriali. Essi, sempre più chiaramente, tendevano ad approfondire e rendere irreversibile la dissociazione già emersa tra la natura e il ruolo politico dello Stato e la sua crescente funzione economico-amministrativa. Ciò che questo nuovo ceto sociale, il più attivo e dinamico, apparso in Italia dopo molti decenni, voleva era una secca riduzione delle prerogative politiche dello Stato ed una dilatazione e quasi uno smembramento delle sue funzioni economico-amministrative, sì da renderlo strumento docile e malleabile a sostegno degli interessi dei maggiori gruppi capitalistici, industriali e bancari. Giolitti, pur senza comprendere il problema della costruzione di strumenti politici di massa con i quali soli era possibile rinvigorire le irrigidite strutture dello Stato liberale, puntò su un'ipotesi di rafforzamento dello Stato attraverso il potenziamento estremo della sua compagine burocratico-amministrativa e sul depotenziamento sistematico del Parlamento e delle forze politiche, ritenendo che per questa via fosse possibile ampliare la capacità di mediazione, di correzione e più in generale di direzione dello Stato sull'intera società ed in particolare sulle componenti più dinamiche di esse, la borghesia industriale e il proletariato di fabbrica. Una volta però posto il problema in questi termini, gli fu impossibile raggiungere l'obiettivo che si era prefisso, poiché esso prefigurava una modificazione apertamente autoritaria del sistema politico. Rifiutando di giungere a questa conclusione eversiva della costruzione giolittiana, non rimase che un aspetto, quello appunto della depoliticizzazione dello Stato e della sua trasformazione in un enorme apparato burocratico, amministrativo, economico, i cui caratteri, acuiti e perfezionati dall'esperienza della guerra, saranno poi assunti, con opportuni adeguamenti, dallo stesso fascismo come uno dei pilastri della edificazione dello Stato amministrativo autoritario. Cosicché, non solo gli anni in cui fu al governo, ma anche quelli successivi, fino all'avvento del fascismo, furono solcati da un inarrestabile duplice processo di svuotamento dello Stato e di radicalizzazione delle prospettive politiche e dei conflitti delle principali forze sociali del Paese, largamente al di fuori dell'alveo istituzionale del sistema liberale. Mentre il controllo politico delle masse veniva meno e lo Stato doveva far ricorso e quasi legittimare la violenza organizzata dei fascisti, la borghesia dell'industria monopolistica e delle grandi banche rifiutava alla radice non solo la mediazione e l'evoluzione democratica del sistema politico, ma anche l'assetto liberale le appariva angusto e contraddittorio con la propria vocazione autoritaria nelle fabbriche, nella società e nello Stato. La democrazia politica, il capitalismo monopolistico, il controllo delle masse e la preminenza dello Stato e della borghesia politica su tutte le altre componenti della società non coesistettero in Italia che per brevissimo tempo. L'equilibrio, in meno di due decenni, si alterò completamente, dando luogo ad un riassestamento generale delle strutture economiche e politiche e delle gerarchie di potere tra le classi che sanzionò la conquista dell'egemonia sociale e civile della borghesia industriale, soprattutto a danno della classe operaia, ma anche di vasti strati intermedi. In termini politico-istituzionali, questo trapasso di potere si tradusse nella costruzione di uno Stato giuridicamente autoritario e dittatoriale, ma politicamente ed economicamente guidato e diretto dai grandi interessi del capitalismo industriale e finanziario, quindi privo di una sua preminente funzione di sintesi e di direzione della vita nazionale. Il sindacalismo confederale nasce, si sviluppa e si consuma in questa delicatissima fase di transizione della nostra storia, ed è proprio da questa genesi che scaturiscono i suoi tratti distintivi. Se è giusto sottolineare l'importanza dei fattori ideali, ideologia socialista, ed il peso della tradizione storica nell'orientamento delle masse popolari italiane in senso democratico, classista, pacifista e internazionalista, tuttavia ritengo che queste componenti da sole non riescono a fornire una compiuta interpretazione dell'intera, rapida e tragica parabola del sindacalismo confederale, né a fornire una realistica valutazione delle contraddizioni interne. Ove non si parta dalla constatazione che il proletariato italiano giunse alla costruzione dell'organizzazione sindacale nazionale nel mezzo di una crisi profonda del sistema politico e sociale, e mentre il passaggio dalla struttura economica e produttiva, manifatturiero agricola ad una industriale si realizzava con forme e tempi contratti ed esasperati, è pressoché inevitabile cadere in uno schema ricostruttivo e in una valutazione vuoi meramente moralistica, vuoi politicamente teleologica. Ed è indubbiamente moralistico, di fronte alle accertate contraddizioni del sindacalismo confederale, ricondurre il discorso al fatto che il processo di emancipazione delle masse non poteva che essere lento e faticoso, e quindi non poteva essere esente da difficoltà e limiti che non inficiarono tuttavia l'azione e i fini complessivi perseguiti. Questa affermazione è, nella migliore delle ipotesi, teleologica. Questa è nelle migliori delle ipotesi tautologica. Così come è piattamente teleologico leggere la storia sindacale e di classe secondo metri e modelli astratti, quali il revisionismo, la rivoluzione, ma anche il riformismo, come sembra risaltare con crescente esclusività nelle posizioni, più che nelle ricostruzioni, queste ultime in vero alquanto scarse, degli storici comunisti. In realtà, anche per la storia sindacale di classe, mi sembra valido un criterio di ricostruzione globale che ponga a raffronto gli indirizzi ideali, le scelte programmatiche e le strutture operative con il livello dei problemi che storicamente emergevano e nei confronti dei quali così le istituzioni dei movimenti delle masse rappresentano fattori soggettivi e dinamici di comprensione e di tendenziale risoluzione. Nel caso della CGIL, la sua storia va allora esaminata in relazione ad un insieme di problemi specifici che comprendono la crisi del ruolo politico dello Stato, l'avvio di una organizzazione e di una egemonia non più su masse inarticolate e disaggregate, bensì su classi sociali sempre più definite, una industrializzazione che in pochi anni arriva a darsi una struttura concentrata e monopolistica, creando ed acuendo contraddizioni economiche che sono immediatamente sociali, su tutta la disoccupazione di massa e l'emarginazione funzionale del mezzogiorno, la formazione di una classe imprenditoriale che supera il primitivo individualismo e apoliticismo per darsi organizzazioni sindacali, territoriali e nazionali e soprattutto un preciso indirizzo politico egemonico e autoritario, così verso lo Stato che verso la classe operaia, un proletariato industriale e agricolo già estraneo allo Stato liberale unitario, che è spinto dalla propria condizione oggettiva ad elaborare una linea di azione di aperta rottura del sistema economico e politico borghese. Il coagularsi nel breve volgere di due decenni di tutti questi problemi fa sì che il sindacalismo confederale acquisti una dimensione assolutamente diversa dai principali modelli sindacali degli altri paesi europei e dagli Stati Uniti. In sintesi, la Confederazione fu costretta a caricare la sua azione, il suo programma, di una serie di valenze che andavano ben al di là della mera amministrazione e tutela della forza lavoro. Questo va detto indipendentemente dai concreti indirizzi e dalle scelte operate dai gruppi che ispirarono e guidarono ininterrottamente l'organizzazione sindacale confederale dalla sua costituzione al Congresso di Milano fino all'autodissoluzione. La Confederazione, cioè, si trovò in una delle posizioni cruciali, al centro quasi dell'intreccio tra i due processi storici di fondo che scuotevano la società e l'economia italiana. Da ciò, più che dall'ideologia riformista, derivò la dilatazione politica della Confederazione, l'importanza ed il rilievo delle sue vicende, l'incidenza e il permanere delle scelte e dei programmi elaborati. L'evoluzione confederale va seguita, compresa e valutata alla luce di questo complesso intreccio di spinte e di linee di tendenza. Quelli che a me sembrano i tre cardini su cui ruota l'intera storia confederale vanno analizzati in relazione alla loro congruenza con il livello delle questioni alle quali intendevano fornire una soluzione. Essi si possono così sinteticamente riassumere. La politicità della CGDL, che è, come vedremo, un fenomeno assai complesso e caratterizzato da prospettive divergenti. La definizione del ruolo del sindacato nei confronti dello sviluppo capitalistico-industriale e in particolare nei confronti dell'andamento ciclico del processo di accumulazione e di riproduzione. Infine, il rapporto tra confederazione e classe operaria, cioè la questione della democrazia sindacale e dell'egemonia. Di questi tre aspetti, quello che senza alcun dubbio scatenò le maggiori, più tenaci ed anche più imprevedibili opposizioni, determinando alla distanza con il completo fallimento di questa operazione la crisi della stessa confederazione, fu la costante tendenza all'evoluzione politica della CGDL. Le diverse motivazioni del vasto e composito schieramento anticonfederale su questo punto non sono prive di significato ed offrono alcuni interessanti spunti di riflessione. È noto che gli avversari principali dei dirigenti confederali furono i sindacalisti rivoluzionari. Costoro avevano elaborato e tendevano a mettere in pratica una strategia ed un modello di organizzazione sindacale radicalmente diverso da quello confederale. Fra i punti centrali di dissenso si trovava la questione della politicità del sindacato. A prima vista questo contrasto può apparire alquanto incomprensibile, giacché i sindacalisti rivoluzionari, ancor prima dei Rigola, dei Pagliari, dei Gabrini, avevano colto e denunciato con estremo vigore polemico ed intellettuale uno dei due elementi basilari dai quali traeva alimento e legittimazione la tendenza politica dell'organizzazione sindacale, cioè la crisi di ruolo, di funzione e di rapporto con la classe operaia del Partito Socialista, colto assolutamente impreparato dai primi massicci effetti sociali dell'industrializzazione. Erano stati i sindacalisti tra il 1902 ed il 1905 a denunciare la sclerosi del partito politico quale strumento adeguato nelle nuove condizioni economiche e sociali di organizzazione e di direzione del proletariato. La dura sconfitta da essi subita all'interno del Partito Socialista ed il fallimento del loro tentativo di egemonizzare la nuova organizzazione sindacale nazionale avevano accentuato l'avversione di questa componente nei confronti così del Partito Politico Socialista che nei riguardi della duttile manovra diplomatica con la quale nei primi due anni di vita la Confederazione si era venuta emancipando dall'iniziale rapporto di dipendenza nei confronti del Partito Socialista. Proprio in questo delicatissimo biennio, nel corso del quale la Confederazione non solo si liberò dalla tutela del partito, ma gettò le premesse della sua espansione politica e consolidò le strutture organizzative che poi risulterà pressoché impossibile modificare, non si realizzò neppure sul comune terreno antipartito una saldatura tra sindacalisti e confederati. È evidente che vi erano così ragioni di potere e dissensi insanabili sulla concezione stessa del sindacato a rendere per altri versi impossibile un duraturo accordo. Tuttavia non va sottovalutata la considerazione, presente sia ai sindacalisti che ai confederali, che la rottura dell'unità, determinatasi dopo il 1907, era dannosa e soprattutto incomprensibile e avversata dalle masse e da una porzione stessa degli organismi sindacali, camerali e federali. In realtà i maggiori approcci unitari avvennero proprio sul comune terreno dell'autonomia dai partiti e sulla apoliticità, ovvero apartiticità della Confederazione. Comunque, se non si giunse ad una saldatura, ciò risale a ragioni più profonde, ad una differenza sostanziale di intendere l'autonomia dai partiti. Siamo così al punto che ci interessava sottolineare. Infatti, al di là del comportamento diplomatico della CGDL verso i partiti, il contrasto di fondo con i sindacalisti sorgeva allorché si passava da questa comune valutazione critica alla parte propositiva. Autonomia per fare che cosa? Le risposte non potevano essere più divergenti, ma la storia successiva del sindacalismo registrerà una confluenza sul corporativismo tra le due posizioni solo apparentemente inusitate. Dunque, per i sindacalisti, l'autonomia completa dei partiti equivaleva al rifiuto totale della dimensione politica borghese tipica, cioè al rifiuto del sistema parlamentare, che traeva sostanza appunto dal sistema dei partiti. Le masse dovevano essere organizzate unitariamente sulla base della condizione economica e dovevano esprimere attraverso le lotte e gli strumenti sindacali diretti la loro opposizione così al capitalismo industriale e agrario che allo Stato borghese, espressione meccanica e diretta di quegli interessi. Tutte le possibili soluzioni ai problemi e alle speranze della classe operaia andavano ricercate nei soli rapporti di produzione. Quando poi, in una parte dei sindacalisti, sotto l'effetto della guerra di Libia e del successivo conflitto europeo, i rapporti di produzione nella accezione marxiana si trasformarono nel concetto tipico della nuova economia capitalistica del mondo della produzione, era implicito un deciso passo verso un'ipotesi apertamente corporativa. L'itinerario dei confederali fu diverso, ma l'approdo fu assai simile. Rifiutata la supremazia del partito, postulata l'autonomia politica completa del sindacato, Rigola e i suoi compagni puntavano all'inserimento diretto dei rappresentanti delle organizzazioni operaie proprio nelle istituzioni parlamentari, al fine di trasformarle, rinvigorirle e renderle più adeguate alla nuova prorompente realtà proveniente dallo sviluppo industriale e dai suoi connessi problemi sociali, legislazione, conflittualità, disoccupazione, eccetera. Se le istituzioni politiche rappresentative non erano rifiutate, tuttavia si postulava una loro radicale modificazione, sia per trarle fuori dalla mortificante ed inoperosa paralisi in cui l'aveva gettata la prassi giolittiana, sia per rendere più incisivo e democratico il funzionamento del sistema politico rappresentativo, integrandolo con le nuove forze sociali emergenti. Dunque, un sistema politico parlamentare caratterizzato da una crescente presenza del mondo della produzione e da una prevalente azione nei confronti di questo, una combinazione tra salvaguardia del regime parlamentare e sua modifica in senso corporativo. L'esame delle altre opposizioni all'indirizzo confederale ci consente di articolare meglio la complessa tematica della politicità sindacale. Ci si riferisce all'ostilità che provenne dagli ambienti socialisti, sia dalle componenti intransigenti e rivoluzionarie, sia dai riformisti turatiani, sia in qualche modo dagli stessi riformisti di destra, Bonomi e Bissolati, che pure erano sembrati politicamente ed ideologicamente i più affini all'ipotesi del gruppo dirigente della CGIL. Se il dissenso con i sindacalisti concerneva l'uso ed il fine dell'autonomia dai partiti, quello con le diverse forze socialiste ovviamente concerneva in primo luogo il rapporto con il partito, ma si estendeva per un verso alla stessa questione della natura e della funzione delle istituzioni politiche borghesi e per un altro al tema del controllo e della direzione delle masse. L'intreccio di queste motivazioni caratterizza le diverse opposizioni dei rivoluzionari e dei riformisti. Comune ad entrambe era la ferma convinzione del primato e del ruolo direttivo complessivo del partito nei confronti del sindacato, pur se veniva riconosciuta alla Confederazione un'ampia zona di autonomia e di iniziativa nel campo economico rivendicativo. Ma mentre i rivoluzionari, nelle loro differenti gradazioni, osteggiavano i disegni confederali soprattutto in riferimento alla questione della direzione delle masse, negando alla CGIL e ai sindacati la funzione di massimi rappresentanti ed ispiratori politici della classe operaia, i riformisti, specie quelli turatiani, si preoccupavano soprattutto di salvaguardare il ruolo di sintesi e la posizione di guida della componente politico-partitica all'interno delle istituzioni rappresentative, cioè ribadivano la preminenza sul piano legislativo del gruppo parlamentare su tutte quelle tematiche generali che interessavano il movimento operaio e che venivano allora definite come grandi riforme. Alla Confederazione i primi contestavano la direzione delle masse, cioè i rivoluzionari, i secondi invece le riconoscevano un ruolo preminente sul piano economico sindacale, prendendo atto di una realtà di fatto esistente, ma negavano la funzione politico-parlamentare autonoma del sindacato. I problemi politici del movimento di classe, la trasformazione democratica e graduale della società, non potevano, a loro giudizio, essere compito esclusivo della Confederazione. Su queste premesse anche la comune ispirazione ideale tra Confederazione e riformisti turatiani in tutti i momenti significativi, così tra il 1908 e il 1911-12 e così nel dopoguerra, non riuscirà mai a tradursi in un'organica e stabile alleanza politica, contribuendo in maniera sostanziale ad indebolire e paralizzare l'intero schieramento riformista e attraverso il peso che questo esercitava lo stesso schieramento socialista e di classe. La Confederazione, invece, nella sua costante polemica verso il Partito Socialista, aveva messo a punto uno schema di evoluzione politica nel quale il pieno controllo sulle masse e la diretta rappresentanza politico-parlamentare si intrecciavano indissolubilmente. Sono già state ricostruite le fasi specifiche di questa strategia e quindi ad esse rinviamo. In questa relazione gioverà soltanto sottolineare ancora come gli strumenti elaborati dai dirigenti confederali per concretizzare le loro proposte fossero sostanzialmente quattro: la sottrazione al partito e la vocazione alla confederazione del diritto di proclamazione, direzione e chiusura degli scioperi, così economici che politici, la costituzione di un partito del lavoro, cioè di una rappresentanza parlamentare di diretta promanazione sindacale in quanto agli uomini e vincolata ad un programma elaborato dalla Confederazione, la definizione, avviata al secondo congresso nazionale della CGDL di Modena, settembre 1908, di un programma di riforme economiche, sociali e legislative da proporre ed agitare autonomamente tra le masse, una politica rivendicativa, ispirata ai soli concetti della gradualità e del rispetto delle esigenze della produzione capitalistica, compensata da provvedimenti legislativi di tutela di alcuni aspetti della condizione lavorativa. Tuttavia, per comprendere nella sua portata la questione, occorre soffermarsi su una seconda condizione oggettiva. La vocazione politica confederale affonda le sue radici, oltre che nella caduta del ruolo del partito, nella contemporanea caduta della funzione politica del Parlamento. Tale caduta si espresse da un lato nell'inerzia legislativa, affiorata drammaticamente proprio durante il lungo ministero giolittiano del 1906-9 e proseguita sostanzialmente negli anni successivi, ad eccezione della riforma politica del suffragio e di quella del monopolio sulle assicurazioni, dall'altro nell'incapacità rappresentativa della nuova composizione sociale ed economica del Paese, da parte del Parlamento. La letteratura antiparlamentare in Italia è stata in questo periodo particolarmente ricca e vivace, e accanto a posizioni di ottuso reazionarismo vi furono indubbiamente analisi penetranti sulle cause oggettive del decadimento del Parlamento e del ruolo politico dello Stato. Senza dubbio le analisi più efficaci erano quelle provenienti dagli ambienti politici ed intellettuali legati ai nuovi gruppi economici monopolistici e che sottolineavano, specie dopo la crisi del 1907, l'incompatibilità del sistema liberale basato sulla rappresentanza politica con i principi e le esigenze apertamente autoritarie della grande industria, che aveva soprattutto bisogno di efficienza amministrativa e legislativa e di tranquillità ed ordine nella società. Era proprio questo collegamento tra diversa composizione e funzione del sistema politico e ristabilimento di una condizione di ordinato consenso delle masse nelle fabbriche e nella società, turbata in questo periodo da continue e crescenti agitazioni sia nelle campagne che nelle industrie, a costituire la premessa di fondo della linea confederale. I dirigenti della CGDL, pur se con sfumature diverse, vivevano quotidianamente il penoso dramma di uno Stato onnipresente ma impotente e incapace di varare e far rispettare una seria legislazione sociale, di compiere scelte di politica economica conseguentemente finalizzate a contenere la lievitazione dei prezzi, a bloccare l'emigrazione e la disoccupazione. Lo Stato ed il Parlamento apparivano, oltre che politicamente, strutturalmente impermeabili ad una politica di riforme sociali ed economiche, le sole in grado di compensare la pesante condizione di sfruttamento esistente nelle fabbriche, nelle campagne e nelle zone emarginate, e quindi di favorire per questa via una reale costituzionalizzazione delle grandi masse popolari. Una volta scartata, come vedremo, la strada della lotta di fabbrica come prioritaria nella strategia confederale, la questione della funzionalità dello Stato, che doveva attuare le riforme sociali, diveniva pressoché vitale per garantire l'egemonia della CGDL sulle masse. Ecco perché i dirigenti confederali maturarono la convinzione della necessità del rinnovamento delle istituzioni rappresentative attraverso l'immissione diretta delle nuove forze. Fino al 10-11, cioè fino all'esaurirsi della proposta del Partito del Lavoro, caduta praticamente al terzo congresso confederale di Padova, la trasformazione politica del sindacato aveva un significato di sostituzione, diremmo oggi di supplenza, di un duplice vuoto politico, quello del PSI e quello dello Stato-Parlamento. Diretta e completa rappresentanza degli interessi delle classi lavoratrici, costituzione di una specifica ed autonoma deputazione parlamentare, programma di riforme sociali ed economiche formavano l'articolazione concreta del disegno strategico della Confederazione. In questa fase si può ancora valutare in termini di vocazione democratica il progetto di riforma. È ancora radicata la convinzione che la debolezza e la disfunzione delle istituzioni liberali siano superabili appunto attraverso questo processo di immissione diretta delle forze sociali ed economiche protagoniste dello sviluppo industriale. Del resto è sintomatico che un'analoga maturazione avvenne quasi contemporaneamente nel mondo industriale, dove oltre alla costituzione di un organismo sindacale nazionale, la CIDI, Confindustria, nel 1910, si cominciò a teorizzare sul partito degli industriali. La rapida sconfitta però di questa ipotesi di integrare il Parlamento per renderlo adatto ai nuovi compiti ed alla mutata realtà sociale ed economica che si consumerà tra la grave crisi del 7 e la guerra di Libia non equivalse all'annullamento del gravissimo problema. Anzi è proprio dal suo fallimento e dall'evoluzione politica generale che prese le mosse una sensibile trasformazione in senso più compiutamente antistatuale e corporativo delle linee di evoluzione politica autonoma così degli industriali che della Confederazione. Già nel 1909 e subito dopo vi era stato un primo sintomo di cambiamento di atteggiamento, allorché la CGDL e l'Organizzazione Sindacale Industriale avevano sottoscritto un accordo per modificare la legge sulla maternità ed avevano elaborato un progetto comune per l'istituzione di uffici misti di collocamento per lenire gli effetti della disoccupazione. In entrambi era stato ribadito il principio dell'esautoramento del ruolo centrale dello Stato, giudicato incapace di attuare i sistemi efficaci di tutela e di salvaguardia dell'occupazione. Adesso si chiedeva soltanto il concorso finanziario per alleggerire i costi così degli industriali che degli operai. La tremenda crisi sociale e la vastissima conflittualità degli anni 13-14 sembrarono accantonare queste forme di collaborazione diretta e di scavalcamento degli organi dello Stato. Per un altro verso, però, proprio questa crisi sociale ed economica, facendo saltare completamente e rendendo praticamente inoperante il sistema di mediazione della conflittualità di tipo giolittiano, si tradusse nella conferma implicita della dislocazione del potere politico a favore delle forze sociali, le quali avevano regolato direttamente i loro rapporti sulla base di uno scontro frontale, senza interventi mediatori e completamente al di fuori delle norme di democrazia industriale fissate da Giolitti. Lo Stato non solo non sembrava in condizioni di realizzare le riforme sociali, ma si rivelava privo di adeguati strumenti di persuasione e di mediazione politica, proprio durante i mesi della più vasta e profonda esplosione di conflittualità sociale, 13-14. Le modalità apertamente antiparlamentari, con le quali poi fu deciso l'intervento, sottrazione di potere sia dalla piazza che dalle manovre diplomatiche, e soprattutto la gestione del periodo del conflitto, che sanzionò l'avvenuta trasformazione dello Stato in un enorme apparato amministrativo-economico, funzionale alle grandi concentrazioni finanziarie produttive, vere padrone ed arbitre dei destini del Paese, provocarono una sostanziale modificazione della linea confederale. La sola e significativa esperienza del sindacato in regime di guerra si deve considerare quella della collaborazione negli organismi della mobilitazione industriale. Ebbene, fu proprio durante questi anni, apparentemente anonimi e tutto sommato grigi e depressi per il sindacato, che si affermò definitivamente la duplice convinzione che il cuore decisionale dello Stato non era più il Parlamento e forse neppure l'esecutivo, ma l'apparato burocratico-amministrativo che aveva assunto compiti enormi in materia economica, in materia di rapporti di lavoro e di condizione degli operai, e che dunque era a questo nuovo livello che si doveva realizzare la presenza ed esplicare l'azione del sindacato e non più a quello politico parlamentare ormai quasi inesistente. Congiunta a questa convinzione riaffiorò poi quella che solo con la diretta collaborazione con gli industriali era possibile salvaguardare il ruolo del sindacato e svolgere una funzione positiva di redistribuzione delle enormi ricchezze che si venivano accumulando in seguito agli incrementi imprevedibili della produttività aziendale. La pratica della collaborazione subalterna nei comitati della mobilitazione industriale spezzò irreparabilmente la valenza democratica che in qualche modo era implicita nella precedente impostazione politica confederale. Qui non si trattava più di rappresentare gli interessi globali, economici e politici delle classi lavoratrici in una istanza elettiva di fronte agli interessi delle altre classi sociali. Quindi non si trattava di un'autonoma funzione di sintesi da parte del sindacato. In quegli organismi amministrativi il sindacato, già privato di autonomia operativa e di libertà dalla censura e dalle misure straordinarie di guerra, era costretto ad amministrare in modo coatto le sole questioni attinenti ai salari, ai cottimi, alle condizioni di impiego della forza lavoro femminile e minorile, azienda per azienda, isolatamente. Esso, com'è documentabile facilmente dagli atti dei comitati della mobilitazione industriale, non aveva una reale possibilità di contrastare le decisioni che gli industriali prendevano. E del resto lo stesso bollettino confederale era costretto a registrare passivamente i continui attacchi alla legislazione protettiva del lavoro senza poter rispondere con la lotta. Ancora più grave era la scissione che in questo modo si produsse tra la funzione del sindacato come istituzione e il movimento reale della classe lavoratrice, che o non si riconosceva nel sindacato o si abituava a considerarlo come uno strumento vantaggioso perché volto a tutelare corporativamente gli interessi sezionali di gruppi di lavoratori. L'estraneità ai fatti di Torino del 17 e l'assoluta mancanza di una qualsiasi riflessione sul loro significato confermano la profondità della divaricazione apertasi tra istituzione sindacale e masse operaie e popolari. Questa mancanza di organica compenetrazione con le masse, resa poi più grave dalla linea confederale di sostanziale appoggio e di collaborazione alla guerra, oltre a favorire la ripresa di iniziativa e di egemonia del Partito Socialista, bloccò la potenziale evoluzione democratica del progetto politico confederale. In una sola occasione la Confederazione sembrò voler riassumere la linea dell'evoluzione politica del periodo giolittiano, e fu allorché, discutendosi del dopoguerra, essa concordò con il PSI un vasto programma di riforme politiche ed economiche, volto a superare le contraddizioni dello Stato liberale in un senso profondamente democratico. Ma esaminando la vita interna della Confederazione, gli scritti di Rigola, il comportamento delle singole federazioni, ci si accorge che questo accordo programmatico del maggio 1917 va collocato entro un cambiamento dei rapporti di forza tra partito e sindacato a favore del primo, cioè del partito, come sarà confermato dalla risoluzione scaturita da un apposito convegno del settembre 18 che di fatto ridava al partito compiti di direzione generale del movimento di classe e sullo stesso sindacato, e quindi è da intendersi come un cedimento forzoso del gruppo confederale ad una impostazione ad esso estranea, di prevalente provenienza partitica, pur se paradossalmente ampliava alcuni temi dell'impostazione confederale precedente. Così, dalla guerra, la Confederazione uscì con un secco ridimensionamento, sia verso il Partito Socialista che verso le masse. La gestione d'Aragona, succeduto a Rigola nel 18, Rigola dimessosi appunto in seguito al constatato fallimento della sua operazione politica, sarà caratterizzata, al di là del vistoso ma effimero rigonfiamento numerico-organizzativo, dalla caduta verticale di qualsiasi capacità di autonoma iniziativa politica da parte della Confederazione. La conclusione negativa della vicenda della partecipazione alla Commissione per il Dopoguerra, la mancanza di un preciso indirizzo nelle agitazioni sociali sempre più gravi, la delega al partito sui temi delle lotte operaie e la rinuncia a dirigere il movimento nei momenti di maggiore tensione, occupazione delle fabbriche, furono al tempo stesso sintomo ed effetto di un impasse generale della Confederazione, che trovò i suoi punti culminanti nella posizione di inerzia riguardo al precipitare della crisi politica ed istituzionale e nella incapacità di organizzare una efficace autodifesa delle proprie strutture sindacali aggredite con la connivente complicità delle autorità dalle squadre fasciste. Certo, molteplici furono le ragioni di questa crisi e non solo imputabili a processi interni alla Confederazione, ma un aspetto che va sottolineato e che è peculiare al suo gruppo dirigente è, a mio avviso, proprio quello che concerne l'involuzione della linea politica, involuzione che comportò, accanto allo stile di diffidenza verso i partiti politici e alla radicata sfiducia nell'iniziativa di massa una profonda sfiducia non solo nella possibilità, ma ancora nella opportunità e validità di un programma e di un'azione di difesa delle istituzioni essenziali dello Stato liberale attraverso uno specifico ed autonomo intervento del sindacato. Con sempre crescente intensità i dirigenti confederali indirizzarono la loro azione, i loro programmi verso l'accettazione del produttivismo aziendale, quale unica via di uscita di fronte alla crisi industriale. Inoltre, essi proiettarono la collocazione del sindacato nell'ambito più vasto dei superiori interessi della nazione, accostandosi alle formulazioni corporative che caratterizzavano larghi settori del sindacalismo dannunziano e di quello fascista. È su questa comune premessa che si avvia la fragile esperienza della costituente sindacale volta all'unificazione dell'intero schieramento sindacale, comprese le organizzazioni fasciste. Ma in quei mesi, tra la fine del 22 e i primi del 23, la crisi politica ed istituzionale si era già risolta con la formazione del Ministero di Coalizione presieduto da Mussolini. Resta il dato che con un indirizzo intessuto di produttivismo aziendale e di corporativismo istituzionale, la CGIL, così come non poteva contribuire alla difesa dello Stato liberale, si veniva a trovare completamente spostata su un terreno improprio, sul quale la sola alternativa era la dissoluzione, ovvero la diluizione nel sorgente sindacalismo fascista. Il secondo elemento qualificante dell'evoluzione confederale è costituito, come si è ricordato, dalle posizioni del sindacato verso il ciclo economico e comprende, accanto alle proposte di politica economica, la strategia rivendicativa della Confederazione. In generale, il riformismo sindacale è stato individuato e quasi ridotto a questo solo aspetto dell'azione e del programma della CGIL, e si è contrapposta questa prevalente attenzione dedicata ai concreti problemi economici ad una presunta mancanza di concezione politica da parte dell'organizzazione sindacale. Se è inconfutabile la tendenza degli uomini che ispirarono il sindacalismo confederale a dedicare un'ampia attenzione alle questioni di tecnica sindacale e quasi a prefigurare un tipo di sindacato prevalentemente contrattuale, specie nelle istanze federali, non vanno trascurate le implicazioni teoriche e le valenze politiche che sempre sostennero il pragmatismo confederale. Quanto abbiamo rilevato riguardo alla politicità del disegno confederale smentisce alla radice questa posizione e rivela come la storia della CGIL fu molto più ricca e complesso fu l'organico intreccio tra dimensione politica e strategia economico-rivendicativa. Pertanto occorre esaminare con maggiore attenzione, secondo criteri di valutazione adeguati, gli orientamenti di politica economica e le scelte rivendicative della CGIL anche alla luce di quel disegno politico generale. Questo ovviamente non equivale al disconoscimento dei limiti e delle contraddizioni del riformismo economico confederale, solo che queste insufficienze non possono essere ricondotte semplicisticamente ad una inadeguata padronanza teorica dei postulati del marxismo, ovvero ad una scarsa consapevolezza della dimensione politica della lotta di classe nel nostro paese, che se così fosse noi cadremmo inevitabilmente in una lettura ascensionale della storia del movimento operaio. Saremmo indotti allora a considerare come avviate storicamente a soluzione positiva queste contraddizioni nel momento in cui si affermano tra le masse la più rigorosa teoria leninista e la costruzione del Partito Comunista. Definire lacune di comodo come proprie del movimento operaio dell'era giolittiana per poi considerarle superate nella logica della costruzione del Partito Comunista è errato, sia se fatto in nome del leninismo ortodosso, sia se fatto in nome di un neoriformismo che tenta di riassorbire, di inglobare in una continuità totalizzante i dati della storia del movimento operaio. In realtà l'analisi storica rivela come i problemi apertisi con la rivoluzione industriale dinanzi al proletariato italiano agli inizi del secolo XX furono di tale ampiezza e gravità da porre il Partito Socialista e la Confederazione di fronte a compiti tremendi. Le risposte che furono date avevano una loro intrinseca congruenza. Erano risposte date alla sostanza dei problemi emergenti che tuttavia non riuscirono ad impedire la sconfitta verticale, così del movimento di classe che delle stesse istituzioni sindacali e dei rispettivi gruppi dirigenti. Il che vuol dire che le contraddizioni furono ben più profonde e risalivano alla sostanza stessa della strategia del movimento operaio e sindacale. La storiografia ha ormai evidenziato con discreta precisione la portata e le conseguenze dell'industrializzazione accelerata. I risultati di maggior rilievo di queste indagini consistono senza alcun dubbio nel superamento delle iniziali polemiche sul modello di sviluppo, sulla sua originalità e sulle possibili alternative. Ormai non sembra confutabile che i tempi di inizio del processo ed il condizionamento internazionale hanno reso pressoché obbligata la scelta delle forme e dei caratteri dell'industrializzazione italiana. Inoltre, il ruolo svolto dallo Stato in tutti i suoi aspetti, dalla politica protezionistica a quella monetaria, deve essere considerato in relazione appunto a questa situazione oggettiva. Tuttavia, proprio l'analisi dei fenomeni sociali ha consentito di allargare l'ambito delle valutazioni, superando il rigido schematismo di ricostruzioni esclusivamente economiche, ed ha così gettato una viva luce sulle peculiari ed intrinseche contraddizioni dell'industrializzazione accelerata. In sintesi, il costo pagato per trasformare nel breve spazio di 2 decenni una struttura produttiva dotata di un'embrionale base industriale manifatturiera in una monopolistica, bruciando rapidissimamente la fase intermedia, si riassume non solo nelle contraddizioni orizzontali della emarginazione del meridione e della costituzione di una disoccupazione di massa, che neppure l'imponente e costante flusso emigratorio riuscì a ridurre in proporzioni compatibili, ma in una serie di contraddizioni verticali, forse ancora più gravi nel lungo periodo delle prime. Infatti, la formazione di un'economia monopolistica all'interno di una struttura economica e sociale ancora immatura ha comportato una rigida selezione e gerarchizzazione così dei settori produttivi che al loro interno delle aziende e dei gruppi. A sua volta, la composizione sociale del proletariato e delle altre classi legate all'espansione industriale si è venuta velocemente deformando. Il proletariato di fabbrica non solo si è trovato scisso sul piano economico e sociale dalle grandi masse del sud e dai disoccupati, ma si è formato come classe attraverso una discontinuità, una frammentazione estrema al suo stesso interno. L'unità come classe sociale ed economica è stata più ostacolata che favorita dall'industrializzazione monopolistica e la mancanza di omogeneità ha poi reso impossibile qualsiasi raccordo con quel conglomerato sociale in rapida mutazione che comprendeva i ceti medi. La grande industria, e negli altri paesi capitalistici, pur se con costi umani enormi, ha contribuito alla omogeneizzazione ed alla divisione delle classi, in Italia ha viceversa prodotto una scomposizione corporativa di esse. I soli meccanismi di integrazione furono quelli ideologici. Le classi, che strutturalmente non avevano una precisa identità, hanno dovuto in primo luogo ricostruirsi la propria unità ed il cemento ideologico-politico è risultato il principale strumento di coesione. Ovviamente esso non poteva ricomporre un tessuto sociale profondamente lacerato e sottoposto ai meccanismi di condizionamento corporativo messi in atto direttamente dalle stesse grandi concentrazioni produttive. Del resto lo sviluppo dell'industria nazionale fra il 1900 e la grande crisi del 29 è stato possibile solo mediante l'accorciamento dei cicli riproduttivi, cioè delle fasi di stagnazione e di espansione, e l'ulteriore compressione delle basi economiche di potere delle grandi masse popolari e degli stessi strati intermedi. Questo processo contratto del ciclo economico, guidato dalle esigenze di riproduzione allargata delle grandi concentrazioni capitalistiche, ha reso permanente l'instabilità e la frammentazione sociale, impedendo che i diversi ceti consolidassero la propria condizione produttiva ed il proprio status sociale. Tra il 1900 e il 22-23, periodo preso in esame da questa relazione, si succedono vorticosamente fasi di espansione sfrenata a fasi di stagnazione prolungata e di crisi. Dal 1900 al 1904 tutti gli indici economici compiono un balzo impressionante. Poi con il biennio 5-6 la congiuntura rallenta e sfocia in parte sulla scia della recessione mondiale del 7 e la crisi in apparenza borsistica e monetaria e realtà strutturale del 1907. Dal 1908 al 1911 la razionalizzazione dell'apparato produttivo e la compenetrazione tra capitale bancario e industriale avvengono mentre la congiuntura si mantiene stagnante, i salari regrediscono, il costo della vita aumenta, il bilancio dello Stato si irrigidisce. La guerra di Libia non ebbe un effetto dirompente tale da far uscire l'economia italiana dalla prolungata recessione ed anzi preparò in qualche modo la gravissima crisi ad un tempo economico e sociale del 13-14. La caduta degli investimenti fu l'aspetto centrale di questa crisi. La mancanza di investimenti risaliva, oltre che alla persistente conflittualità aziendale, alla caduta dei saggi di profitto, in seguito al formarsi di un eccesso di capacità produttiva di contro ad una domanda interna così di beni strumentali che di consumo limitata e anelastica e in presenza di un mercato internazionale solcato da gravi perturbazioni. La crisi del 13 rappresenta il culmine e lo spartiacque dell'intera storia economica italiana tra il 1900 e la Grande Crisi. Fu quello il punto di svolta, così nel ciclo economico che nei rapporti sociali e politici, oltre che, come si è accennato, nello stesso sistema politico giurittiano-liberale. In quell'anno l'economia industriale si trovò, per la prima volta, di fronte al problema della riproduzione allargata di una struttura monopolistica, ristretta e privata della compensazione del mercato internazionale. È questo il vero banco di prova della maturità dello sviluppo capitalistico industriale di un paese. Il nodo fu sciolto dalla guerra e dalla completa subordinazione dello Stato alle grandi concentrazioni monopolistiche. Queste infatti rilanciarono gli investimenti in modo massiccio, aprendo il nuovo ciclo espansivo e realizzando incrementi di profitto enormi e quindi un'accumulazione allargata, proprio mediante l'utilizzazione dello Stato e la compressione completa degli interessi economici di tutte le altre componenti della società, dai lavoratori dell'industria a quelli della terra, dai ceti medi urbani alle piccole e medie industrie. In questo quadro, il riassestamento e la manovra congiunturale del dopoguerra, blocco degli investimenti e ristrutturazione fino al 21, ripresa a partire dal 22-23, appare ispirato da prevalenti ragioni politiche e di controllo dell'esplosiva dinamica sociale messa in moto dalla fine della guerra e non da necessità qualitative del ciclo economico. L'emarginazione del meridione, la disoccupazione di massa, l'emigrazione, la mancanza di unità e di omogeneità sociale e produttiva dello stesso proletariato dell'industria, differenza per settori, per tipi di aziende, per zone, per qualifiche, l'impossibilità di collegamento con altre forze sociali, sia urbane che agricole, e seppure disgregate e destabilizzate, un andamento ciclico contratto dell'economia che rendeva instabile le posizioni conquistate nella struttura sociale, la comparsa per la prima volta della pratica della manovra della congiuntura economica da parte della grande borghesia monopolistica con finalità politiche, la funzionalizzazione economica dello Stato per uscire dai punti morti del ciclo, intervento della Banca d'Italia nel 7, politica delle commesse e del lavoro nel 15-18, salvataggi prima e politica economica fascista poi nel 21-23, era questo il quadro entro il quale si sviluppò l'industrializzazione accelerata del paese. Ed era in riferimento a questo quadro che la Confederazione collocò la propria strategia economica e rivendicativa. Ed è perciò in rapporto a questo livello che va analizzato e valutato il suo riformismo e gradualismo. Se l'evoluzione politica del sindacato riformista fu spezzata nella sua valenza democratica e si intorbidò di profonde venature corporative che ne determinarono il fallimento, la strategia economico-rivendicativa fu caratterizzata da una permanente subalternità nei riguardi del tipo di sviluppo industriale in atto. Al di là delle singole posizioni su specifici problemi, l'elemento costante della linea della CGDL può ritrovarsi nell'accettazione dello sviluppo monopolistico, selettivo e concentrato e nella collocazione dell'azione rivendicativa nell'ambito delle compatibilità offerte da questo meccanismo di accumulazione. L'analisi delle posizioni confederali tra il 6-7 ed il 21-22 rivela appunto come il sindacato non riuscì a definire ed a porre in atto una condotta autonoma dall'andamento del ciclo. Al contrario, l'aver fatte proprie le ragioni dell'espansione monopolistica, ritenuta la sola plausibile, la più valida tecnicamente e la più vantaggiosa per la classe operaia, si tradusse in un'obbligata accettazione, così delle modalità di accumulazione durante le fasi espansive che delle modalità di superamento delle crisi nelle fasi depressive. Le due componenti della politica economico-rivendicativa della CGL furono, da un lato, la richiesta di una politica di contenimento della disoccupazione mediante lavori pubblici e la messa in funzione degli uffici di collocamento, cioè mediante la funzionalizzazione del mercato del lavoro, nonché di una politica del consumo che contenesse la spinta inflazionistica. Dall'altro, una politica aziendale basata sul principio della successione temporale, degli aumenti salariali e dei miglioramenti normativi alla formazione del profitto e comunque il rifiuto di considerare la rivendicazione economica come suscettibile di piegare e orientare diversamente la quantità e gli indirizzi del profitto. In questo modo la strategia confederale si articolò secondo uno schema rigido dei due tempi. Quando la congiuntura tirava era possibile chiedere una migliore distribuzione della ricchezza, anche in virtù della maggiore occupazione. Quando subentrava la crisi bisognava arrestare lo slancio rivendicativo e sopportare, in termini di disoccupazione e di produttività, la ripresa degli investimenti. Questo schema fu seguito alternativamente appunto tra il 1900 e il 1901-2, poi tra il 7 e l'11, nel 13-14, nel 15-18 e rispettivamente nel 19-20 e nel 21-22. Ora, un'impostazione del genere negli altri paesi capitalistici, dove l'articolazione di classe era più omogenea, condusse ad un reale coinvolgimento dei lavoratori ai benefici delle prime forme del capitalismo di massa e fece dei sindacati gli autorevoli mediatori e gestori di questo processo. In Italia le discontinuità strutturali e sociali trasformarono questa linea di condotta in un'azione assolutamente inefficace, così dal punto di vista della dimensione dello spostamento della ricchezza prodotta a vantaggio delle classi lavoratrici, che dal punto di vista del condizionamento dell'offerta da parte della domanda e quindi dell'allargamento del mercato. Infatti, mentre i disoccupati ed il meridione nella sostanza erano completamente tagliati fuori dall'iniziativa e dai programmi economici confederali, agli stessi operai occupati veniva proposta una soluzione corporativa, aggancio salario-profitto, sulla base del criterio della produttività, del sistema differenziato delle qualifiche, di una struttura del salario nella quale prevalevano le voci incentivanti, indirette e discriminanti, che pur conducendo a sperequazioni salariali consistenti, non era tale da incidere sulla ridistribuzione del reddito né da rendere accettabile il rigido sistema di produzione imposto dalle grandi aziende meccanizzate. Tre furono gli strumenti sindacali mediante i quali si articolò la strategia confederale. La priorità accordata alle federazioni di mestiere rispetto alle camere del lavoro nell'impostazione e nella gestione della politica rivendicativa nelle fabbriche, ispirata ai criteri della professionalità e degli aumenti proporzionali. La realizzazione di un sistema di contrattazione collettiva che sanciva la delega ai padroni sui temi dell'organizzazione produttiva, sulla disciplina interna, sui criteri dell'assunzione ed inoltre garantiva la continuità produttiva in cambio del riconoscimento del sindacato quale rappresentante dei lavoratori ed agente contrattuale, nonché di miglioramenti salariali e di provvidenze normative che spesso però rimarranno pura formalità. Infine, un uso del conflitto, sciopero, sospensioni, stato di agitazione, eccetera, estremamente contenuto, disciplinato ed imbrigliato in un insieme di procedure arbitrali, normalmente contenute nei contratti collettivi ed altre volte imposto dagli stessi dirigenti sindacali provinciali e nazionali. Il conflitto doveva essere, nella concezione e nella prassi confederale, oltre che ben ponderato e inevitabile, di breve durata e con un fine preciso, quello di ottenere una più equa ripartizione del maggior reddito aziendale costituitosi dopo un periodo di espansione. Erano esclusi dalla normale azione sindacale gli scioperi politici, tranne i casi estremi di attentati alle libertà istituzionali dell'organizzazione o tentativi reazionari di sovvertire le basi politiche del sistema, ma erano rigidamente banditi anche gli scioperi di solidarietà interaziendale, locali e settoriali. Il principio infatti era quello non dell'allargamento del fronte della lotta, ma nel caso di intransigenza patronale, ma viceversa quello del restringimento massimo dello sciopero, al quale gli altri lavoratori dovevano fornire, insieme alle organizzazioni sindacali, solo il sostegno morale e la solidarietà finanziaria. In sostanza, i dirigenti sindacali confederali puntavano al controllo e all'amministrazione della forza lavoro, intesa come uno dei fattori della produzione, secondo forme di flessibilità e di adattamento meccanico all'evoluzione del ciclo economico. Nel primo decennio del secolo questa manovra si può considerare in qualche misura riuscita e coincide con il massimo consolidamento politico e burocratico del sindacalismo confederale. Con una discreta sincronia si era riprodotto lo schema formulato dai sindacalisti riformisti. Durante l'espansione del 1900-1902 grandi agitazioni operaie erano riuscite a strappare miglioramenti salariali e normativi. Poi col 3 la riscossa padronale aveva bloccato la spinta rivendicativa e la conflittualità, pur se acuta e persistente, era andato declinando per riesplodere solo nel 7, in concomitanza con la fase più drammatica della crisi borsistico-finanziaria e produttiva. Quindi nei lunghi e pesanti anni della stagnazione e della ristrutturazione 8-11, l'iniziativa rivendicativa e la conflittualità operaia avevano subito un vero e proprio tracollo, accompagnato da un sistematico attacco padronale ad alcune conquiste che sembravano acquisite. La Confederazione, che nacque e si consolidò appunto durante gli anni 6-11, ritenne di trovare in questa vicenda la conferma delle proprie concezioni del rapporto tra iniziativa operaia, ciclo economico e ruolo del sindacato. Nelle fasi di crisi, l'attacco padronale poneva in gravi difficoltà il movimento di classe, che trovava nella salvaguardia dell'istituzione sindacale il suo estremo argine. Quindi il sindacato esercitava la sua massima funzione politica quale strumento di difesa delle condizioni minime di vita e di libertà della classe operaia durante il frequente succedersi dei riflussi ciclici. Ma col secondo decennio è proprio questa relazione a saltare. Già nel 1911 vi erano state grandi lotte, alcune delle quali, pur condotto secondo i criteri confederali, non avevano potuto evitare prima la radicalizzazione estrema e poi la sconfitta verticale dei lavoratori e dello stesso sindacato. Le vicende del 13-14, allorché disoccupazione, crisi economica, attacco padronale, invece di spezzare la conflittualità l'avevano esasperata, generalizzata e sottratta al controllo confederale, suggelleranno la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova e diversa fase nel rapporto tra iniziativa di classe, ciclo economico e ruolo del sindacato. È la compresenza della crisi e della conflittualità. Se la guerra sembrerà riprodurre il vecchio schema, annullamento della conflittualità e delle rivendicazioni operaie, ampliamento delle funzioni sindacali, il ripristino del libero meccanismo della lotta di classe mostrerà chiaramente, insieme con la grande difficoltà confederale di riprendere la vecchia funzione di direzione delle masse che ormai lottavano proprio per spezzare la dipendenza dal ciclo e per rovesciare i tradizionali termini nei quali il capitalismo industriale riduceva il conflitto di classe. L'elemento tragicamente nuovo dell'esperienza del dopoguerra fu che, a differenza di quanto ritenevano i dirigenti confederali, la mancata inversione del rapporto tra iniziativa operaia e ciclo economico, cioè la sconfitta sul campo della classe operaia, non si tradusse nel rafforzamento politico e istituzionale del sindacato. Al contrario, l'arresto e la sconfitta operaia del 19-20 aprirono la strada non solo alla violenza fascista, ma dapprima logorarono e svuotarono, poi travolsero completamente le stesse istituzioni sindacali. Le ultime considerazioni ci introducono così al terzo ed ultimo elemento costitutivo della storia confederale, il rapporto cioè tra classe operaia e sindacato, la configurazione strutturale dell'organizzazione sindacale, le complesse relazioni esistenti tra le varie istanze, la questione della democrazia e della burocrazia sindacale. L'eccessiva dilatazione della relazione impone una trattazione sintetica di questo fondamentale aspetto del sindacalismo prefascista, ma esso merita la massima attenzione ed è forse quello sul quale la riflessione e la ricerca storica concreta dovrebbero essere maggiormente sviluppate. In sintesi si può in primo luogo sottolineare come una profonda correlazione esista tra la concezione del ruolo politico del sindacato, la strategia economico-rivendicativa e la struttura della Confederazione. L'esame dei caratteri interni della CGDL rivela la loro dipendenza e funzionalità al disegno complessivo di porre la Confederazione quale rappresentante politica unica delle classi lavoratrici nei confronti così dello Stato e della borghesia produttiva nell'ambito dell'accettazione del meccanismo economico attraverso il quale si andava sviluppando il sistema industriale. Anche in riferimento a questo problema bisogna tuttavia premettere la considerazione che questo tipo di struttura sindacale non sorgeva prevalentemente da modelli ideologici, ma dalla necessità di fornire una soluzione ad un preciso e specifico problema storico, quello della ricomposizione e dell'espressione unitaria di masse popolari disgregate economicamente e socialmente, non solo a causa dell'arretratezza, ma anche dello sviluppo del sistema industriale. Alla crisi di egemonia di tutti gli strumenti politici classici, dallo Stato ai partiti, nei riguardi delle classi lavoratrici, e potremmo aggiungere non solo di esse, la Confederazione tentò di supplirvi con una organizzazione la quale in qualche modo superasse le discontinuità strutturali attraverso una unificazione politico-ideologica. Nel sindacato, che riuniva tutti i lavoratori a livello nazionale e ne diveniva l'espressione politica, quindi lo strumento di organizzazione e di omogeneizzazione, i dirigenti della CGIL individuavano la sola occasione per avviare a soluzioni le drammatiche spaccature e frammentazioni oggettive delle classi lavoratrici italiane. Ora, la crisi di egemonia e la sconfitta ad opera del fascismo dipesero in larga parte dal fallimento del modello strutturale elaborato dalla Confederazione per unificare il proletariato italiano. In altri termini, la soluzione avanzata per affrontare il problema storico della ricomposizione unitaria della classe operaia attraverso il sindacato risultò intrinsecamente inadeguata. Questa insufficienza organica consiste nel fatto che i quattro elementi fondamentali della struttura confederale non riuscirono nel loro complesso a favorire non solo l'unificazione economico-sociale, che era compito forse improprio ed irraggiungibile, ma neppure l'unificazione politico-ideologica attraverso la partecipazione democratica delle masse alla vita interna delle istituzioni sindacali. I quattro cardini della CGIL furono il centralismo burocratico, la mancata costituzione di un raccordo tra organismi sindacali ed organismi espressione diretta dei lavoratori nelle fabbriche, la prevalenza accordata al federalismo rispetto alle camere del lavoro e infine la rigidità del gruppo dirigente e la totale identificazione della sua linea politica con l'esistenza stessa della Confederazione, che equivalse a rendere sterile l'opposizione interna e stentata la dialettica democratica. La fusione di questi quattro elementi rese inattuabile il progetto di unificazione del proletariato. Infatti essi confluirono nel determinare una struttura sostanzialmente priva di democrazia, nel duplice aspetto della mancanza di partecipazione dei lavoratori alla gestione della vita interna del sindacato e della impossibilità di far coesistere una pluralità di linee e quindi un ricambio del gruppo dirigente, anche radicale, senza spezzare l'unità istituzionale formale della Confederazione. Le istanze sindacali erano scisse dai lavoratori. Non esistevano istanze di raccordo tra fabbriche e sindacati provinciali, federali o camerali, e quindi la funzione di rappresentanza era estrinseca e puramente formale. Le federazioni, poi, la cui storia va tutta studiata, avevano una composizione ed una strategia largamente corporative, sia settorialmente che all'interno delle singole categorie. È certo che attraverso di esse non poteva filtrare una prassi di unificazione del proletariato. Infine, il centralismo burocratico e l'immobilismo del gruppo dirigente si traducevano in una sottrazione di potere e di iniziative alle varie istanze sindacali, inducendo nell'organismo un paralizzante sistema di trasmissione a senso unico, dall'alto in basso, delle decisioni e delle scelte, così sui temi delle agitazioni economiche e politiche che sugli scioperi e le lotte dei lavoratori, proclamazione, conduzione, solidarietà e chiusura delle vertenze. Tutto questo veniva deciso quasi generalmente dai massimi dirigenti confederali, o perlomeno questa era la linea. L'uniformità senza partecipazione sostituì l'obiettivo dell'unificazione democratica delle masse. Le contraddizioni di questa struttura accompagnarono costantemente l'evoluzione confederale, rendendo sempre più sterile e priva di rispondenza la stessa strategia economica. Molte camere del lavoro ed alcune federazioni non accettarono mai l'indirizzo e la guida confederale e sovente si sottrassero alla disciplina nazionale. La democrazia operaia si espresse attraverso i consigli misconosciuti e combattuti dalla CGIL fuori ed in opposizione con le strutture sindacali confederali. L'impossibilità di cambiare il gruppo dirigente dall'interno rese inevitabile la scissione dell'unità stessa del sindacato con la Costituzione dell'USI nel 1912. Il centralismo burocratico condusse i dirigenti nazionali ad una serie di crisi e quasi di abdicazione dalla direzione del movimento operaio, proprio in occasione dei più intensi periodi di conflittualità di classe, 7, 13, 19, 20, quando cioè l'azione di unificazione doveva esprimersi con il maggior vigore possibile. La CGIL divenne così uno strumento intrinsecamente debole perché scarsamente sorretto dalla partecipazione reale delle masse, alle quali non seppe offrire una struttura sindacale democratica. In questo fallimento sono da ricercarsi le radici profonde delle contraddizioni del sindacalismo prefascista. La mancata unificazione equivalse alla mancata egemonia sulla classe operaia e sulle masse lavoratrici. Il problema aperto dalla rivoluzione industriale accelerata, che né lo Stato liberale, né i partiti e neppure il sindacato riuscirono a risolvere, sarà per un certo periodo risolto con la forza dalla grande borghesia monopolistica, che piegò dapprima la classe operaia all'accettazione dei meccanismi del capitalismo industriale e quindi sanzionò in forma coatta questo spostamento dei rapporti di classe utilizzando un regime reazionario di massa quale fu il fascismo. La storia della CGIL si esaurì appunto allorché questo spostamento fu completato, intorno alla fine degli anni venti, e tutte le relazioni tra il sistema politico, lo sviluppo economico e le masse popolari si modificarono profondamente. Scusate la lunghezza, grazie. Kollegen, die besser in dieser ganzen sind, Herr Ulrich oder so, noch irgendeinen Punkt hervorheben können, die ich vielleicht zu sehr ausgelassen habe, oder Herr Steurer, habe ich so im Wesentlichen, dass soweit es möglich war, gesagt. Danke. Ja, sie hat so eine Präambel an Diskussionen in Italiano o in Tedesco, io non parlo della sua lingua. Chi è il primo? Famoso rompighiaccio. Rompighiaccio diverso. Ah, certo. Allora, la gioventù. Il signor, come si chiama? Rottigliano. Rottigliano. Ecco, io intanto devo dire che concordo con quasi tutti i giudizi che penso che è espresso in relazione. Anche sul giudizio riguardante l'intrinseca e comunque la finale ricomposizione in un corporativismo sia della parte sindacalista rivoluzionaria che della parte del confederato. Però se è vero questo, è vero anche che forse andava messo un po' più in luce di fronte all'analisi di tutte le componenti sia dello Stato che della società italiana che tendevano effettivamente, e quindi anche del sindacato, che tendevano effettivamente a questa parcializzazione, separazione tra le varie categorie di lavoratori italiani, che è tipica appunto del sindacalismo di mestiere, che veniva affermato in quegli anni non solo in Italia, ma in gran parte. È vero anche però che non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, anche nella Francia, soprattutto già da tempo prima, era in atto un tentativo, cioè una consapevolezza di questo, e un tentativo su larga scala di controbattere queste tendenze. E questo è, a mio avviso, una delle cose più importanti del sindacalismo industriale, no? Che in Italia si chiama sindacalismo rivoluzionario, infatti è abbastanza differente, cioè, però queste tendenze erano presenti largamente nella società italiana, oltre che internazionale. Ecco, se è possibile tornare un attimo su questi elementi, è anche possibile vedere come si contrapponeva e con quali motivazioni la CGIL si contrapponeva a questo tentativo di riunificazione del proletariato non soltanto industriale per quanto riguarda l'Italia, ma anche la ricomposizione braccianti meridionali, emarginati, eccetera, sindacalismo e proletariato urbano, tentata appunto dal sindacalismo rivoluzionario, almeno fino al 13, diciamo, fino forse è migliore. Andrea, ma io comincerei con una cosa, insomma, che la relazione del professore ha una grande coerenza, insomma, no? Quindi mettere secondo me in difficoltà, perché quando i discorsi sono molto coerenti tra loro, al loro interno meglio, chiedono un tipo di trattamento altrettanto coerente, insomma. Io devo ammettere che sulle molte questioni che lui ha affrontato non ho la chiarezza che permette la coerenza che lui utilizza. Se posso concludere quasi con una battuta, direi che è troppo coerente per i miei gusti, insomma, un discorso di questo tipo. quindi dei problemi, se permette, sottopongo, perché sono problemi di ricerca per me, sono sia nell'insegnamento come anche proprio nel lavoro di ricerca, costituiscono, come dire, ancora delle questioni aperte. Ecco, la prima riguarda quella che lei ha chiamato la politicizzazione, questa tendenza alla visione dei problemi di carattere politico, generale, economico, non economico, della Confederazione Generale del Lavoro. Ecco, io ho un dubbio. Il dubbio è che tra i fattori di questa politicizzazione debba essere messo anche il fallimento, che lei ha detto in luce, di quello che doveva essere la naturale funzione della Confederazione Generale del Lavoro. Perché che cos'è una confederazione? E perché mai tra le strutture, tutti sanno qui che il movimento sindacale italiano all'inizio del Novecento ha una struttura un po' particolare, dico una struttura organizzativa, Camera del Lavoro, Federazione di categorie, di mestiere, organizzazione, come dire, che sta a dei rapporti generali per organizzazioni che non stanno, come le statistiche del Ministero hanno dimostrato. Ora, l'esigenza che porta la CGIL, almeno una delle esigenze, sembra essere quella di creare, come dire, un organismo di raccordo che centralizzi anche, per esempio, la contrattazione collettiva. No? Questo è uno degli obiettivi, e questo è certamente uno degli obiettivi nuovi. Non raggiunti perché? Perché la struttura, e su questo c'è dissenso completo, almeno da quello che ha detto, la struttura economica e sociale del paese, prevalentemente agricola ancora, ma anche sotto il profilo industriale, è un magma, come dire, che non si è ancora composto ed è una realtà notevolmente arretrata dal punto di vista industriale. Quindi questo crea esigenze, per esempio, sul piano contrattuale, anche all'interno delle stesse categorie, i tessili, i metalmeccanici, che rendono impossibile la centralizzazione contrattuale, addirittura la rendono impossibile per categorie. Noi abbiamo contratti collettivi nazionali, come dire, molto tardivi, insomma, no? Tra l'altro non abbiamo neanche una storia dei contratti collettivi, non sappiamo come sono andate le cose, né dal punto di vista salariale né dal punto di vista normativo. Per cui tutti i discorsi che si fanno su queste cose sono tutti campati per aria. Sono campati purtroppo su pochi esempi noti, il famoso contratto vinto alla FIOM, il contratto dalla Borsalino, e poche altre, tutto il resto è sconosciuto. Allora, se uno degli scopi della CGIL era quello scopo non viene raggiunto per una ragione obiettiva, insomma. Il tipo di evoluzione economica del paese impedisce una contrattazione centralizzata. Il fallimento di questo, secondo me, all'origine non è il solo, ma è uno dei fattori della conversione. E se lei permette, questa è una cosa che si sta ripetendo, si è ripetuta altre volte. Il sindacalista si politicizza perché? Non combina niente contrattualmente parlando, perché l'inflazione o l'andamento o l'opposizione padronale o quel che vuole lei gli stridisce tra le mani, e anche se guarda i modelli tedeschi, soprattutto inglesi, vede che i risultati contrattuali sono di una modestia incredibile, quella modestia che spinge la parte più avanzata o meno avanzata della classe operaia e contadina a farsi, come dire, portatrice di istanze rivoluzionarie, perché il sindacalismo si traduce, il sindacalismo classico non da niente, o da molto poco. Quindi questo è un primo punto. Io non so, mi sono venuti in mente alcune cose, la confessione di Gregorio e dei suoi amici dopo il periodo fascista, il corporativismo fascista, a parte tutte le spiegazioni di debolezza ideologica, secondo me hanno una spiegazione anche psicologica, che finalmente avevano trovato, finalmente c'era stato qualcuno che i contratti collettivi li imponeva. Dopo i risultati sappiamo quali erano i termini sostanziali, salariali, soprattutto. Ma c'era una magistratura del lavoro, c'era un apparato che avevano sempre sognato. E non erano mai riusciti a realizzare solo. Sì, dall'inizio del secolo. Sono da creare al 10% nei fatti. E noi sappiamo che gli iscritti al sindacato guardano queste cose. Se il contratto si applica o non si applica, oltre ad altri problemi. Quindi questa è la prima, come dire, il primo problema. Il secondo problema è invece un po' più di fondo. Io non condivido, non condivido perché non ritengo che ci sia una sufficiente letteratura per poter condividere. Per quella visione dello sviluppo industriale italiano, 96-907, 907-914. E mentre lei parlava, siccome io di mestiere, modestissimamente, con scarsi risultati, faccio lo storico economico, mi sono domandato, al di là del bacio, di là di alcuni centoni e di alcune cose oggi non più accettabili come il lavoro di Romeo, che cosa permette di dire, a parlare di concentrazione monopolistica, che cosa? Sì, alcuni indici, d'accordo, alcune cose sono verificate, ma questo è un grande vuoto che abbiamo. Io l'ho detto anche l'anno scorso, ho fatto arrabbiare, spero che lei non sarà, il mio relatore, che era da tardi, perché io ho contestato la stessa cosa. Chi era questo? Non era Scopole, no, era chi? Taniello, era, sì, era Taniello, perché anche lui, come dire, aveva fatto una serie di ragionamenti sul movimento cattolico che davano per conosciuta la sottostante realtà economica italiana, che conosciuta non è, dal mio punto di vista, almeno secondo la mia economia. Quindi questa concentrazione, io ho fatto fino a fuori per dire l'ultimo il lavoro che lei conosce del Procacci, no? Quel tentativo, ecco. Beh, noi conosciamo i censimenti industriali dell'inizio del Novecento, cioè, la realtà industriale italiana dice che l'impresa media italiana è fatta da 1 a 3 dipendenti. Da 1 a 3. E poi c'è un piccolo privilegio di un piccolo gruppo di medie e grandi aziende, che solo noi nella nostra fantasia chiamiamo grandi aziende, perché in altri ambienti sarebbero considerati delle potenti. E questo è il punto. Tolta la Fiat, tolta la Pirelli, tolta la Terni, tolta quelle 4 cigli arsenali e le altre cose, la grande struttura industriale non esiste. E io dico non esiste neanche la classe operaia, almeno strutturalmente parlando. O esiste in forme, come dire, piuttosto di più. Allora, se le cose stanno così, quel grosso discorso importante che lei ha fatto, secondo me, è più bravo, di collegamento politica della CGIL e realtà economica, come dire, è debole su uno dei punti. Lo storico di fronte a queste cose deve dire che è debole, punto e basta, insomma, deve aspettare soltanto che ci sia più chiarezza intorno alle vicende industriali e economiche. Terza osservazione, anche il terzo problema, insomma. Mi penso che quando sempre su questo settore che a me interessa molto, insomma, questa parte della sua relazione, la politica salariale, la politica sindacale della CGIL, il fallimento della CGIL, è come penso di notare, e così se si permette il termine non me ne viene uno più diplomatico, insomma, una certa confusione tra la realtà ricostruibile sui documenti, sui congressi, sulle cose che vengono dette in quelle occasioni in cui bisogna dire qualcosa, insomma, la realtà. Quando io presento, per esempio, sento dire che i dirigenti della CGIL ispiravano un'azione sindacale che favoriva i rapporti arbitrali, gli istituti di democrazia industriale, ma dove si sono realizzati questi rapporti? Dove c'è stata reale rispondenza tra quello che un Rinaldo Rigola poteva avere in testa in fatto di modello sindacale? Alti contributi, come dire, casse di resistenza, eccetera, eccetera, e quella che è stata la realtà che conosciamo da capo, un punto. Per cui su ciascuno di questi problemi, soprattutto sul secondo, ecco, io direi che sostanzialmente emerge un limite, insomma, di una ricostruzione molto coerente, ripeto, no? Molto interessante anche per tutti i problemi che solleva, cioè il limite dei criteri interpretativi. I temi interpretativi, lei ha detto bene, mi ha fatto piacere, dice, devono essere articolati. Ecco, però, nella misura in cui sono articolati, creano esigenze di sintesi e di composizione, poi, che se sono in presenza, come lo sono, di vuoti o di debolezze conoscitive, rendono un discorso provvisorio, quindi molto meno coerente, quindi molto meno solido di quanto può apparire. Questo è un bene, secondo me, non è un male. Grazie. Mentre altri interventi è appeso sì. Oscar, aus dem Vortrag von Professor Peter ging sehr deutlich hervor, die Schlüsselsituation, die für die Entwicklung der CGL die Jahre 14 bis 18 da bieten. In dem Sinne, dass die Position der CGL sich in diesem Jahr verschlechtert haben, dass sie geschwächt worden sind, würde mich interessieren, wenn man auf die übrigen europäischen Länder, die sich im Kriege befinden in diesem Jahr, schaut, so scheint mir eher eine Annäherung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattgefunden. Wir haben eine Legalisierung der Position der Gewerkschaften. Wenn man etwa nach Deutschland blickt, wo am Ende des verlorenen Krieges, November 1918, im Augenblick der Niederlage, sich die Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dem bekannten Stinnes-Lenin-Abkommen zusammenfinden und die Arbeitgeber zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der deutschen Gewerkschaften die Arbeitgeber bestimmte Positionen, bestimmte Forderungen der Gewerkschaften anerkennen und sich auf einer Arbeitsbasis zusammenfinden, Anerkennung des 8-Stunden-Tages, Anerkennung bestimmter sozialpolitischer Forderungen der Gewerkschaften. Eine Arbeitsbasis, die zur außerordentlichen Stärkung der Positionen der Gewerkschaften führt. Dieses Abkommen Stinnes-Lenin beruht aber auf der praktischen Zusammenarbeit, die zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen und der Staatsbürokratie in den Jahren des Krieges bei der Kriegsproduktion, bei der Organisation der sozialpolitischen Arbeit stattgefunden hat. Nun haben Sie, Herr Pfeffer, auch davon gesprochen, dass die Gewerkschaften in der Mobilisation der Industriale diese Funktionen, die die deutschen Gewerkschaften in diesen Jahren ausgeübt haben, auch ausgeübt haben. Würde mich interessieren, warum hat diese praktische Zusammenarbeit, die ja nicht die ideologisch gegensätzlichen Fronten eigentlich erst zusammengeführt haben, etwa in England, etwa in Frankreich, etwa in Deutschland, warum hat das nicht etwa die gleiche Auswirkung auf Italien gehabt? Warum hat das, was die CGL 1917, 1918 als politisches Programm, auch als praktisches Programm formuliert hat, nicht die gleichen Konsequenzen gehabt wie etwa in den übrigen europäischen Staaten? Bei mir sarebbe quella la pratica collaborazione sviluppatosi durante gli anni della guerra tra sindacati e organizzazioni statali e organizzazioni dell'industria nella mobilitazione industriale, perché questa collaborazione pratica non è stata un momento di sforzamento, di potenziamento della posizione dei sindacati italiani, un sviluppo che si potrebbe vedere per esempio nella posizione dei sindacati tedeschi dopo la prima guerra mondiale, in questo accordo Stinnes-Lenin del 19 novembre 18, ma che si potrebbe vedere anche nella posizione dei sindacati inglesi e francesi durante e dopo la prima guerra mondiale. Io ho ascoltato con molto interesse le cose che ha detto il collega Zaninelli. Vorrei prendere lo spunto proprio da queste osservazioni, che naturalmente mi trovano perfettamente consenziente quando un collega più competente di me in queste cose dice: ma in fondo ne sappiamo ancora poco come sono andate veramente le cose dal punto di vista dello sviluppo capitalistico industriale dell'Italia del primo Novecento, e quindi sappiamo ancora poco tante altre cose. E quindi quando Zaninelli dice la relazione di Tebe è una costruzione che ha queste premesse, una sua fragilità, può essere d'accordo. Dall'altra parte, io trovo che Pepe ha fatto questo sforzo di coerenza, magari troppo coerente, però a questo punto, sulla base di quello che si sa. E mi pare che quello che si sa, Pepe l'abbia utilizzato appunto per proporci un'ipotesi. No? D'altra parte, quando veniamo nel seminario dei conventi a scambiarci idee, l'importante è che si tenga conto dello stato degli studi e che si abbia anche il coraggio, la temerarietà, in qualche caso, no? Di formulare delle ipotesi generali che naturalmente poi vanno messe in discussione in quanto tali. Ecco, Quindi io ora apprezzando, ma apprezzando veramente, non per complimento le cose che ha detto Zaninelli, farò invece un discorso proprio sulla validità delle ipotesi di carattere generale che ci ha proposto Pepe. Io credo che forse c'è un'accentuazione eccessivamente negativa nel discorso. È vero che ogni volta che noi parliamo del movimento operaio del socialismo nell'età giovinistica, c'è sempre la domanda alla quale non possiamo sottrarci: come avvenne che tutto andò in pezzi? Se nel dopoguerra tutto andò in pezzi, qualche ragione ci deve pure essere, no? E non ci si può sottrarre a questa domanda, non si può fare un discorso di troppo breve periodo e dire ma è un atteggiamento superato da tempo, ma è un atteggiamento che è esistito nella storiografia, ma quanto era bella realtà giovinista, poi peccato che si è guardato tutto, evidentemente oggi non siamo da un pezzo, non siamo più su queste posizioni, no? Quindi una certa dose di discorso che cerca di penetrare nelle contraddizioni la cui maturazione del resto si avverte già nella crisi del 13-14, come Pepe giustissimamente ha detto, che il discorso debba penetrare dentro queste pieghe e capire qual è la targo intrinseco del sistema, e riportare questo, cercare di riportare questo a un discorso sulle strutture, eccetera, è perfettamente legittimo. Ecco, dove io sono invece più perplesso rispetto alle affermazioni di Pepe, tenendo conto del carattere perentorio che debba avere a volte le affermazioni, quando appunto in una relazione eclettica molto in fretta, perché era molto densa, no? Si devono dire le cose un po' troppo politiche, in forma politica, pur tenendo conto di questo. Quando per esempio si dice che c'è una mancanza di egemonia da parte della Confederazione Generale del Lavoro sulla classe operaria, e si attribuisce, se ho ben inteso, questa carenza in buona parte alla mancata possibilità di accordo tra i sindacalisti rivoluzionari e la Confederazione Generale del Lavoro. Prima di tutto questo discorso sull'egemonia non ci sarebbe stata e non ci sarebbe stata. Io su questo ho proprio forti perplessità, per non dire che non mi convince. Come non mi convince nel libro che ha preso per molti altri versi di Gian Piero Carocci, il discorso sulla mancata egemonia della borghesia in Italia. Per partire dal discorso di Carocci, posso sostenere che la borghesia italiana dal 1861 in poi non abbia esercitato una egemonia, cioè non abbia costruito una base di consenso con gli strumenti istituzionali e con gli strumenti culturali, con la scuola per esempio, a me pare che sia un'affermazione che non sta in piedi e che io credo che ci sia un fraintendimento del discorso politico di Gramsci dietro questo. Ma insomma, non voglio venire più vicino al tema di oggi. Però certo è che in questo concetto di egemonia si sta facendo uso e abuso. E io notavo anche nel libro di Carocci, e l'ho detto anche a lui, fra l'altro con un uso non unico di questo no? Che invece crea confusione naturalmente, cioè se per me che cosa si vuole dire. Sul terreno specifico, riportando questo problema sul terreno specifico di questa ipotesi che ci ha proposto, ma io dico che sono due discorsi diversi. Un conto è quel discorso che diceva all'inizio, che mi sembra perfettamente legittimo, sulle contraddizioni che nascono in gran parte proprio da quella che era la situazione dello sviluppo accelerato. Ecco, questo io direi da dire che questo lo sappiamo, per me un sviluppo accelerato rispetto a, cioè che è un tipo di industrializzazione quella italiana in un certo senso quasi non forzata, perché non è esatto, ma insomma, certamente un tipo accelerato e che appunto avviene quando già capitalismo su scala internazionale ha le forme del capitalismo monopolistico, e qui io ne tutto io avrei la conferenza di terra. Se vado al prezzo il fio e poi ricominciamo un altro, niente di dire. Questo è un discorso. Il discorso della mancanza di egemonia mi convince meno, perché non fu il movimento, non organizzò quello che c'era di classe operaia e quello che c'era di classi lavoratrici, non organizzò i braccianti della Valpadana, non organizzò il movimento contadino, non ci furono le camere del lavoro, no, tutti questi, tutta questa struttura e le cooperative e la federazione dei sociali di lungo corso e la cosiddetta vicinanza, e tutto questi non sono strumenti, come vogliamo chiamare, che esercitano una funzione enorme, perché organizzano una grandissima parte della popolazione e quegli strati che non avevano prima di allora non avevano avuto nulla di simile. Non contiamo, perché dopo è venuto il fascismo, non sottovalutiamo allora invece quello che è stato il valore di queste cose rispetto a prima. Insomma, nell'Italia del 1880-1890 queste cose non c'erano, cominciavano appena a tarpeggiare. Che nell'Italia del ventennio, del primo ventennio del secolo, queste strutture ci siano e portino e siano il veicolo, queste strutture con tutto quello che c'è dietro, la conquista dei municipi, la stampa socialista, la circolazione delle idee, la stampa sindacale e via dicendo, no? Beh, che tutto questo non debba essere ricondotto con segno positivo sotto il concetto di egemonia, allora io non capisco più, perché secondo me egemonia vuol dire organizzazione del potere, vuol dire si crea un movimento, si crea delle istituzioni, si creano dei poteri che hanno una base consensuale, no? E nella fattispecie una base consensuale. Se vuol dire questo, ecco, secondo me il punto che io critico nella, per molti versi, affascinante relazione di Pepe, sulla quale rifletterò quando l'avrò sottoscritta, il punto che io non condivido è questo elemento negativo che ritorna, legittimo per la parte che ho detto, ma secondo me non convincente da questa parte. Non penso che lo dico una cosa da poco, e che non so, vabbè, questa cosa poi fu, andò a finire come andò a finire. Ah, un momento, però io qui dico anche un'altra cosa. Dico che quando poi è rinato il movimento, quella tradizione è andata ferma lì. E secondo me noi oggi abbiamo il problema storicamente proprio di recuperare il valore di questa tradizione anche dal punto di vista politico. Non ho nessun timore di dirlo, no? Anzi, io credo che dobbiamo cercare di recuperare. Sì, forse potrei fare un'altra, una brevissima affermazione ancora alla domanda che ha fatto Peterson, forse in parte anche una risposta che riguarda anche la mia relazione. Cioè, secondo me, se si dà una valutazione dei sindacati in Germania durante la guerra, cioè, si può notare questa differenza, almeno a fine guerra, in Italia e in Germania, no? Qui a Cenatino. Però, a mio avviso, bisogna vedere quali erano i successi, in fin dei conti, dei sindacati tedeschi. Cioè, si limitavano, secondo me, che non furono soppressi, cioè al riconoscimento legale. Naturalmente alla fine della guerra, adesso sta parlando durante la guerra, no? Cioè, se si vede la famosa legge, cioè la cosiddetta Gesetz über den Vaterlandischen, cioè il progetto non partiva dai sindacati, ma partiva da Hindenburg, dalla Oberst-Heeresleitung, e secondo me le rivendicazioni e i successi nelle modificazioni di questo progetto che hanno avuto i sindacati erano assai modesti e limitati, perché le commissioni interne di fabbrica che furono istituiti, i loro diritti secondo me contavano per poco. E alla fine della guerra, cioè, questo bisogna riconoscere l'orario di 8 ore, no? Però la differenza secondo me consiste che naturalmente la borghesia tedesca era una borghesia sconfitta militarmente, mentre in Italia era una borghesia vincitrice. E anche, cioè, pur riconoscendo questo successo parziale, diciamo, si vede subito che la controoffensiva padronale, a partire di questo accordo Spines-Levin, subito entra di nuovo, cioè l'abolizione proprio di questo orario di 8 ore, mi sembra avviene nel 1924. Alla fine del 23, dopo l'invasione. Alla fine del 23, dopo la fine dell'invasione. Ecco, cioè, secondo me sì, erano dei successi, però assai limitati, modesti e temporanei. Cioè, a parte che durante la guerra, secondo me, anche la borghesia in Germania aveva un forte interesse di tenere gli operai anche organizzati in quel sindacato, cioè tenerli organizzati che non passassero, cioè, per il comportamento nazionale, diciamo, del sindacato, cioè che gli operai non si spostassero più a sinistra verso la socialdemocrazia indipendente e verso lo Stato. Una domanda sempre su questo problema della guerra, sul fatto un po' più forte a favore di questo problema della guerra. Ecco, io ho letto ora, non conosco il libro, però ho letto un libro abbastanza stimolante di Rotter, che probabilmente avete conosciuto senz'altro, in cui si individua in Germania e io lo vedo in una serie di grosse trasformazioni di un'organizzazione economica e della stessa composizione di classe dei lavoratori. In particolare l'inizio di quella che noi chiamiamo l'offensiva razionalizzatrice con l'operario professionalizzato, che può incidere su tutto il processo di ristrutturazione e che fa parte di un piano di ristrutturazione produttiva guidato addirittura dallo Stato Maggiore in funzione della produzione bellica. Ci sono tra l'altro degli studi molto interessanti su singole industrie, singole settori industriali, per esempio in una verde. Ecco, poi a parte l'Italia la situazione è grandemente diversa, se non altro perché non c'è una mancanza di forza lavoro, mentre invece appunto Germania è tutto subordinato all'utilizzazione di forza lavoro immigrata e di prigionieri di guerra, in cui viene facilitata questa organizzazione nazionalizzata del lavoro. Però se non così ho delle ricordi molto vaghi sul fatto che appunto proprio durante il periodo bellico si è avuto in Italia anche una forte spinta alla concentrazione che poi appunto ha perso effetti anche nel periodo successivo, nel sostegno del fascismo. Io volevo chiedere se si può parlare anche in Italia di certa misura di segni di una modificazione del rapporto di classe attraverso la ristrutturazione produttiva che si possa richiamare all'introduzione di forme provenienti poi dall'America, poi sportivo e terrorismo, nell'ambito poi dello sviluppo. Cosini. Io non voglio aggiungere parole di non scendo di non altro su quello che è stato e quello che abbiamo sentito qui dal professor Daninelli è la seconda volta, e evidentemente la necessità di approfondire questi studi di base c'è, e speriamo che questi studi vengano portati avanti, anche se un certo avvio c'è. Il professor Daninelli è molto duro sempre nel giudizio sull'opera del Romeo, però anche l'anno scorso, almeno se non altro, insomma, il merito di avviarli. E come? Non sono io duro, ormai è conosciuto di dati. Dico su questo terreno io non mi avventuro perché non ho la competenza specifica. Volevo richiamare l'attenzione per una domanda al professor Pepe, e per quanto riguarda quel passo in cui ha accennato che la politicizzazione della CGIL qui in Italia è avvenuta parallelamente al decadimento della funzione e del ruolo e della capacità del Parlamento italiano. Tra gli altri giudizi molto duri e negativi sul periodo giudiziario che ha dato il professor Pepe, c'è stato anche questo cioè di aver indicato l'epoca giudiziaria come quella in cui il Parlamento ha avuto questa scia discendente e questa perdita di capacità decisionali, e perciò comparativamente alla decadenza delle capacità decisionali del Parlamento, le capacità decisionali sarebbe tentato da parte delle organizzazioni della Confederazione delle Giacinte. Ma mi pare, ed è poi di qui nasce la domanda, che la crisi del parlamentarismo sia un fatto generale europeo in questo periodo qui, non soltanto un fatto caratteristico della situazione politica italiana. E allora, ecco di qui la mia domanda, abbiamo anche negli altri paesi europei la stessa politicizzazione, e in che senso, delle organizzazioni parlamentari e il tentativo di sostituirsi esse? Delle organizzazioni sindacali? Sì, delle organizzazioni sindacali e il tentativo di sostituirsi esse ai centri decisionali del Parlamento. C'è, si deve rispondere, tante volte noi al relatore domandiamo un'infinità di cose, che sono marginali anche, però questo sì, mi pare che sarebbe appena fatto ulteriore decisione. Posso dire solo una parola proprio a questo, a quello che riguarda l'Austria, finché lì c'è la situazione speciale, diciamo, del voto delle nazionalità, che anche ha fatto degenerare il Parlamento e ha portato tanti danni all'idea del parlamentarismo. Certamente c'è, perché basta ricordare che, per esempio, il libro di Spahn, Da wahre Staat, che in un certo senso anticipa il corporativismo fascista, eccetera, e che poi lui si sentiva anche, diceva sempre che lui era in fondo il ideologo precursore del fascismo, come si dice, appare proprio nel 18 o 19, super giù, 18-19, in modo alla fine della guerra. E lì certamente c'è questa tendenza di corporativismo, una certa stanchezza del parlamentarismo, una certa crisi del parlamentarismo, specialmente acuta in Austria. Approfitterei di più l'intervento del professor Rossi, poi faccio una domanda, ma qui invece cerco di vedere se posso anticipare qualche risposta del professor Petri. Credo che forse il problema che è stato posto da Pepe, fare più specificato, è che non si debba porre in generale la crisi del parlamentarismo, ma che la crisi del parlamentarismo va alla vista veloce di certe attese del movimento sindacale. Poniamoci nell'anno di coloro i quali nel 1906 formano la Confederazione Generale del Lavoro, ma che in fondo da qualche anno hanno già raggiunto una certa coesione, tant'è vero che Pepe ha ha ragione, parla del 1912 e in fondo ci sono i congressi della resistenza che possono essere considerati prova all'attività della CGIL a partire da un certo momento. Noi non considereremo, credo ha ragione, i congressi che si svolgono fuori di un'unica decisione precedente, perché ora è la organizzazione frammentaria, ma una linea politica c'è prima della costituzione della CGIL e quindi, ora, poniamoci nell'ambito dei promotori della CGIL e cerchiamo di vedere quali erano state le loro aspettative nel momento in cui si costituisce il Consiglio Superiore del Lavoro. C'è tutta la confidenza in un'iniziativa parlamentare volta a recepire le istanze che sono venute sia dalla parte sindacale che dalla parte di coloro i quali al Parlamento si sono mostrati disposti a fungere tramite. E sappiamo le grandi speranze che il Consiglio Superiore del Lavoro aveva nel posto culturale. Ora, quando di queste proposte si producono? Perché a un certo punto alcuni di questi esponenti sindacali inizialmente erano d'accordo nel delegare certe competenze al gruppo parlamentare del Partito Socialista della Camera, lei giustamente ha chiesto, ma negli altri paesi c'è un contraccolpo analogo? E farò riferimento anche io all'esperienza austriaca. Il Parlamento in Austria comincia a funzionare poco già dalla crisi Badeni e quindi gli ultimi 20 anni dell'impero vedono purtroppo una produzione legislativa molto tempo, anche in Italia. Quindi non è vero che Malcomune sia detto caso, ma in realtà lei ha ragione, questo è un fenomeno che riguarda tutta quanta l'Europa. Perché il medesimo non produce i medesimi effetti in Austria. Inoltre, per le leggi sociali ci sono tanti danni. La legge sull'assicurazione di malattia con la costituzione del cambio di cassa esiste dal 1888. La legge sull'infortunistica esiste dal 1889. Si capisce invece che la ritardata produzione legislativa in Italia ha degli contraccolpi. Ma in effetti c'è questa ritardata produzione legislativa e non si può pretendere che di fronte a questi ritardi all'interno del movimento sindacale nell'ambito del mondo operaio non si propone qualche alternativa. Non sto a dire poi se l'alternativa sia estremamente limitata, si fondi su certi dati dello sviluppo sociale. Dico a un certo punto, di fronte a questa posizione di scarsa produttività legislativa, è logico che si pensi a spostare il centro dell'attenzione politica. E del resto queste sono cose di tutti i giorni, perché non è che ci troviamo in una posizione diversa. Abbiamo visto negli ultimi anni come continuamente si è saltato da un polo all'altro, non sulla base di uno studio approfondito di quale sia la nostra situazione, ma semplicemente sulla base della constatazione degli scarsi risultati ottenuti da certe linee. Quindi non so se sì, sono molto d'accordo. Se vi ho rubato un argomento, quello che ha fatto meglio, ma io in ogni modo ho ritenuto che fosse necessario dare questa indicazione. Rispetto alla relazione di tempo, io ritengo che sia molto valido il suggerimento metodologico che lui ci ha dato di non studiare il periodo della CGIL in ragione degli sviluppi che noi abbiamo conosciuto dopo, però come noi sappiamo quello che è accaduto e vediamo per una serie di interventi dialettici perché la sua domanda ci sia stata soltanto dopo. Ritengo però che una messa a punto forse possa trarre vantaggio non solo da questo accorgimento metodologico, non stiamo a vedere troppo quello che è stato insieme delle vicende successive, cerchiamo di vedere anche quello che c'era prima. E quindi il lento liberarsi del movimento sindacale da tutte quante le forme di organizzazione precedente, vuoi mutualistica, vuoi politico confuso, il partito operaio che a un tempo era un'organizzazione politica, sindacale, corporativa. Ora, da questo punto di vista, io credo che partendo da qualche decennio precedente, c'è la possibilità di misurare meglio il risultato raggiunto dalla Confederazione Generale del Lavoro secondo le indicazioni che ci erano state date in accordo. e soprattutto questo ci consente anche di stabilire un discorso più specifico per quel che riguarda il rapporto tra i confederali e i sindacalisti rivoluzionari, che non credo possano essere considerati come termine sinonimo di sostenitori del sindacalismo industriale. Mi pare semmai, questa è la domanda che fate qui, mi pare semmai in Italia il sindacalismo rivoluzionario è semmai l'opposto, e il permanere di vecchie tradizioni di sindacalismo agrario e il tentativo dei paesi economicamente poco sviluppati di organizzarsi soprattutto su base localistica. Organizzazione localistica anziché organizzazione di categoria. Arma lo sciopero generale anziché lo sciopero per il rinnovo del contratto, e quindi tutta una certa organizzazione cui possano accedere chi possano accedere i lavoratori che non sono in grado di pagare determinati cambi. Da questo punto di vista, ecco la profonda validità della ispirazione di Libre. Cerchiamo di organizzare un sindacato di categoria con operai che possano pagare forti canoni e quindi poi possano sostenere lotte fino alla vittoria. Ma d'altra parte, la mancata verifica del punto di partenza. C'è una base industriale, abbiamo in effetti operai che consentono questo tipo di produzione. Allora qui veramente torniamo ai problemi che mi pare molto più sono stati posti da Zanini. Ma da questo punto di vista, che poi non si possa dire conclusivamente e quali che siano tutte le ricerche di base che ancora si devono fare, mi pare che da questo punto di vista sia decisivo da quale comprende quali siano le vicende principali dello sviluppo italiano, che semmai il sindacalismo rivoluzionario, tra virgolette, italiano sia il permanere di quella vecchia posizione attardata, e che in fondo il conflitto che c'è in tutta Europa tra organizzazione sindacale localistica e organizzazione sindacale di categoria, e che può avere diverse valenze, in Italia però è questo. Lì la posizione attardata di chi vuole raccogliere la gente che non ha nulla da perdere, e dall'altra parte chi vuole orientare specificamente l'organizzazione sindacato. Da questo punto di vista, allora, credo che bisogna riconoscere che chi è il sindacato industriale sono i confederati, non certo i sindacati rivoluzionari italiani. Posso un momento, adesso siamo a una svolta perché abbiamo già, dobbiamo dare, ci sono tante domande, dobbiamo dare al professor Pepe anche poi almeno un quarto d'ora per poter rispondere. Adesso c'è ancora il dottor Ulri, e c'è il chi altro? C'è Ulri Signorelli e Vagnani. Ancora prego dunque i due interventi di limitarsi proprio all'essenziale per dare poi la possibilità anche al professor Pepe di rispondere a tutti. Io vorrei molto brevemente l'attenzione a quello che ha detto il professor Gorsini, e in che riprende che fino a proposto sindacato nel vuoto di quello che è creato da un non funzionamento, da un scarso funzionamento, da una decadenza del Parlamento. È uno schema molto affascinante, solo che mi lascia assolutamente indifferito. Cioè, credo che da una parte siamo molto influenzati dalla discussione sia in italiano sullo stato sindacale, a Poleo, con modelli aggiunte corporative al Parlamento e tutte queste cose, e anche internazionale. Tutta l'Europa parla di crisi della democrazia, crisi del Parlamento, ortodossi, tante altre cose. Però se guardiamo, il Parlamento italiano, sovranità americana, ha la rete di presa. Basta pensare al Parlamento degli anni 90 e al Parlamento giuridico. Il Parlamento inglese, la Camera bassa, che per deciso adesso è una Camera formalizzata solo a Bordeaux. Il Parlamento francese ha ricordato una vittoria magnifica alla fine del secolo. Il Parlamento tedesco, persino prima, comincia nettamente a avviarsi similarmente verso processi di parlamentarizzazione più europea rispetto. tutto puntuale, all'università tutto diverso. Rimane il fatto che si ne parla di fatto non funziona, è una cosa specifica, credo. Non riescono i parlamenti francesi, italiano, in Germania la situazione è diversa, come ha fatto il parlamentare, che la funzione tipica dei partiti dell'aggregazione degli interessi, cioè non riescono per varie ragioni a superare una situazione profondamente segmentata e fragmentata, cioè questa aggregazione degli interessi non funziona. Per cui questo ovviamente lo sentono i sindacati, lo sentono gli interessi industriali, eccetera. Mentre funziona dipendentemente da altre cose, per cui la trasmissione di interessi locali al potere centrale, cosa essenziale in paesi molto centralizzati. Per cui direi, secondo me, i sindacalisti, almeno quelli che sono i riformisti, non hanno da lamentarsi del Parlamento italiano. La trasmissione di interessi locali da voti pubblici, di soluzioni eccetera, funziona eccellentemente. Se si parla da molto di informazioni nel Parlamento italiano, i sindacati ci chiede può essere più che contenta, perché attraverso i deputati socialisti candidati sindacali, alcuni deputati radicali, alcuni deputati liberali, hanno una possibilità di influire sul lavoro concreto legislativo. Esempio, la legge, la questione delle tradizioni marittime, la strada della legge del 1908, che è notevole, generalmente nessuno studia gli atti delle commissioni, ma lì ci sono delle possibilità nostre. Andiamo a una questione politicissima. Il Consiglio Superiore del Lavoro e il Parlamento, che nel 1911 ha diritto di maggioranza di parlare in Russia, difende a spada tratta la posizione del Partito Socialista Italiano sulla questione della rappresentanza dei singoli nazioni a parlare, cioè il no alla proporzionale chiesta dai americani, il pieno apporto del PD, cioè il Parlamento, detto volutamente, è una possibilità per la CPL di compensare delle effettive debolezze e di avere un potere maggiore di quello che funziona nel paese. Ci sono un gran numero di operazioni a partire dal Partito del Maggiore, ma con il Consiglio della Marina Mercantile e tante altre cose, dove andrebbe tutto studiato la presenza di sindacalisti, cosa ci fanno e cosa hanno potuto conquistare. Ce l'ho detto per l'ultima cosa di Cesci. Andrebbe a tutto il gruppo di istituzioni dal punto di vista dell'integrazione concreta del movimento operaio operato dall'Italia repubblicana, ma anche come possibilità di conquista politica del socialismo riformista, che vale ovviamente ai comuni e tante altre cose, per esempio di sindacalisti della democrazia sia statale che comunale, eccetera. Scusate se riprenderò temi che sono stati già sollevati, no? Cioè, volevo innanzitutto dire, appunto, così, concordo in pieno quello che diceva il professor Agnelli sul sindacalismo rivoluzionario, volevo aggiungere qualcosa. C'è un aspetto che non solo non può essere identificato come il sindacalismo industriale, no? Ma appunto. Non dimentichiamo l'importanza che ha nel Mezzogiorno. L'importanza che ha nel Mezzogiorno, la diffusione che ha, è una diffusione che ha un motivo, se vogliamo, effettivamente politico, no? Cioè, tranne Napoli e altri rari casi, il Mezzogiorno si trova alla fine degli anni 90 a non avere una rete organizzativa di partito, no? Quasi completamente. Cioè l'organizzazione alla fine degli anni 90 del Partito Socialista è così qualche corrispondente e qualcosa del genere. Il sindacalismo rivoluzionario ha come componente, diciamo, dibattiti napoletani della fine degli anni 90 e inizio del Novecento, proprio la coscienza che, così a un certo punto si ha, che l'unico modo per organizzare, cioè insomma che l'organizzazione, diciamo, sindacale serve ad aggregare. Ecco, questo è un fatto così, cioè, voglio dire, molto diverso naturalmente il sindacalismo rivoluzionario di Milano da quello del Mezzogiorno, perché nel Mezzogiorno è una corrente del Partito Socialista, no? È chiaro, non è che sia un modo di organizzare, però è poi quella corrente che riesce a fare tra i due, soprattutto il 4, che riesce a fare tutti gli scioperi nelle campagne del Mezzogiorno anche, no? Cioè è proprio che riesce a andare direttamente nelle campagne saltando, disinteressandosi, anzi polemizzando con le organizzazioni cittadine, no? Che sostanzialmente poi si trovavano a parlare tra di loro, non avevano nessun legame completamente con le masse. Ecco, qui volevo fare una domanda. Sempre su questo tema, diciamo, in questo modo, cioè il problema della politicizzazione del sindacato. Cioè a me sembra, no, che proprio questo, proprio anche quello che dicevo adesso, questo problema della politicizzazione è, mi sembra che sia strettamente legato, se vuol dire non funzione, insomma, il contraltare, no, del rapporto partito-massa. Cioè, meno il Partito Socialista riesce ad avere un rapporto con le masse, una capacità di organizzazione, maggiore diventa di fatto sia l'esigenza, sia realmente, no, la capacità e la possibilità di politicizzare il sindacato. No? E questo appunto un aspetto è, secondo me, il sindacalismo rivoluzionario, un aspetto di questo. Però vengo alla domanda. Pepe diceva, se ho ben capito, il culmine di questa capacità di iniziativa politica si ha durante la guerra con la mobilitazione industriale, se ho ben capito. Ecco, ora, dico, se è vero questo che dicevo, no, che questa, la politicizzazione è un po' legata, no, alla capacità del PSI volevo sapere, secondo Pepe, quanto abbia importanza poi nel successivo calo, diciamo, di questa capacità di iniziativa che lui indicava, no? Cioè nella ripresa da parte del partito, della leadership un po', no? Ecco, quanto importanza ha anche tutto quello che avviene all'esterno del mondo socialista, cioè durante la guerra. Durante la guerra, insomma, ci sono fenomeni di massa prima sconosciuti, fenomeni di organizzazione prima sconosciuti, e assistiamo soprattutto dal 17 in poi, tra il 17 e il 19, a tentativi da parte dei partiti borghesi, no? Magari attraverso i ex socialisti o attraverso le frange riformiste, eccetera, eccetera, di arrivare a un rapporto con le masse, no? Per esempio attraverso i combattenti, no? Cioè i combattenti sono disputatissimi, no? In quel momento, se li voglio sentire da una parte e dall'altra, finché riescono a spappolarli, poi non esistono più, no? Ecco, non lo so, dico, se ho capito bene questo discorso, vorrei sapere se c'è questo rapporto, no? Professor Bagliani. Io ho molto apprezzato la relazione del professor Pepe, anche perché la inserisco nell'evoluzione della storiografia, non solo italiana ma europea. Noi abbiamo avuto una storiografia ideologica, Croce, Forte, Gramsci, cioè i grandi nomi. Poi abbiamo cercato, la mia generazione, ovviamente ultimo, ma per importanza, noi abbiamo cercato di creare una storiografia specialistica, che anche nel campo della storia economica, probabilmente con la concezione di Santo Chiamò, Mattioli, che Venturi io abbiamo poi tradotta nella collana. E così nella storiografia del movimento operaio, io ammetterei anche Manacorda, le sue origini siano ideologiche, forse il suo punto di arrivo sia vicino a quello del Vietnam, ma le sue opere fondamentali rientrano ancora nella storiografia specialistica, anche Pepe è partito dalla storiografia specialistica e sui libri, punto di partenza, un tema specifico, la concretizzazione generale del lavoro. Però la nuova tendenza è la storiografia integrale della società, che Pepe mi pare ha sviluppato in questo studio, attraverso, cioè un problema particolare, risalire ad una concezione integrale della società. Quali risultati darà questa nuova storiografia verso la quale il professor Zaninelli e diffidente dicono mancano i lavori preparatori, diffidente salutare. Insomma, questo vedremo. Certo, qui alcuni risultati ci sono. Io, per esempio, ne metto in rilievo due, e tutte e due li metto in rilievo non solo sulla base di ricerche, ma sulla base di esperienze personali che portano qualche volta anche queste. Una, la insistenza di Pepe sul fatto che la CGIL non era riuscita a coprire il movimento operaio nel suo insieme, quindi l'unità della classe operaia non era riuscita a toccarla. Ora, questa affermazione io l'ho sentita dire per la prima volta a Forza nel 1928 da Massaretti, cioè da un uomo che ha lavorato nel movimento operaio italiano e non c'è su posizioni rivoluzionarie, perché dalle posizioni rivoluzionarie giungere a questa affermazione era più facile. Cioè dalla posizione del sindacalismo rivoluzionario. Massaretti era il sindacalismo riformista, quello della lista, che diceva noi siamo stati battuti perché non siamo riusciti a realizzare l'unità della classe operaia. Questa era la sua essenza. Anzi, lui ne diceva questo, approvava Rivola, l'inserimento era al confino, però diceva, ma credo tutto, il fascismo, sia pure negativamente, con la sindacalizzazione obbligatoria, riesce a creare l'unità della classe lavoratrice, sia per motivo che diceva Zaninelli dei contratti collettivi, ma Massaretti guardava più che ai contratti, cioè ai risultati, al fatto organizzativo. Cioè, finalmente era il numero dei sindacati che era di 2 milioni è diventato di 6 milioni quanti sono diventati. E dice, dopo la caduta del fascismo, ci sarà questa unità sindacale che abbraccerà, infatti, quello che è avvenuto. Quello che è avvenuto. Contemporaneamente, però, è avvenuto sì, come fatto organizzativo. Organizzativo, cioè i sindacati oggi coprono la quasi totalità della classe operaia. E questo quindi è un problema che la storiografia come la unitaria o integrale del professor Pepe è riuscito a cogliere, mi pare, molto bene. L'altro fatto che pure è riuscito a cogliere molto bene, che pure sia vero, non è perché quei giudizi di valore possano essere diversi, il corporativismo, cioè Pepe ci fa vedere come il corporativismo c'era prima del fascismo, è stato dal fascismo e naturalmente sentiamo che c'è anche oggi. E questo sono dati che evidentemente sono importanti. Dove io consiglierei un po' di cautela al professor Pepe in generale, a quanti hanno questo nuovo approccio, nuovo relativamente, perché ormai in Francia risale già a 20 o 30 anni, ma insomma da noi nella storia del movimento operaio è relativamente recente, e molta cautela, cioè di non cercare di provare troppo, di stare molto attenti alla verifica empirica. Per esempio, parlare di Pagliari, Cabrini, Rivola. Pagliari e Cabrini sono i due avversari. Così come Pepe del Resto lo sa, perché ha visto il loro carteggio nell'archivio Rivola, Pagliari e Cabrini, due avversari personalmente, io stimo molto più Pagliari, devo dire, ma forse perché l'ho conosciuto, ma in ogni modo combattono presso Rivola perché hanno due concezioni diverse dell'organizzazione sindacale e della lotta sindacale. Ma soprattutto questa raccomandazione di non cercare di provare troppo la applicherei alla questione dei monopoli, dell'industria monopolistica. Qui mi pare che siamo su un terreno minato. I monopoli sono stati popolarizzati da un non economista, cioè Marx era un grande economista. Indipendentemente dalla sua teoria del valore, che anche a mio avviso non è sostenibile, però anche lasciandola totalmente da perdere, Marx rimane un grande economista e tutta la scienza economica moderna si occupa delle tesi di Marx, a parte la teoria del valore. Lenin era un grandissimo capo politico che ha naturalmente studiato le questioni economiche, ma questa sua teoria del capitalismo monopolistico è affrettata. Affrettata nel senso che appartiene non alla vera maturazione del capitalismo, ma ad una fase intermedia. Io vi do l'esempio specifico in Italia. quando più vengono le banche, più italiano, le banche di nostre miste, che poi creano, promuovono l'investimento. Queste banche cercano di essere monopolistiche, volontariamente, consapevolmente. Credito italiano e banche commerciali domandano ad ogni azienda che finanziano di dargli il monopolio del lavoro, del loro. Glielo pongono qualche volta come condizione per fare un prestito, per tutte le tue operazioni di banca, tu Fiat o tu Edison o tu non so cosa dire, l'italiano lavorava nel campo della siderurgia, glielo ce lo devi dare a noi. Poi però rinunciano di se stesse perché il monopolio è pericoloso, a parte che non si riesce a raggiungere, che nello sviluppo del capitalismo si va semmai verso gli oligopoli e non verso i monopoli, poi è anche pericoloso. Perché può portare a dei crolli spaventosi, perché basta che una azienda poi fallisca, se c'è una concentrazione monopolistica, trascina nel fallimento tutto il resto. Ora, malgrado tutto, lo scopo del capitalista non è il potere, ma il profitto. In questa ragione Marx, non Lenin, è il profitto. Il capitalista deve fare profitto, perché se non fa profitto tutto il suo potere, non gli serve niente. Si vede adesso. Ora, in Italia la situazione monopolistica l'abbiamo raggiunta una sola volta, dopo il 33, dopo il 33, no, dopo la, cioè dopo la crisi, l'IRI, ma non l'IRI odierna, l'IRI quale esisteva dal 33 al 40, lì c'era una situazione monopolistica. Ma perché c'era la situazione monopolistica? Perché la forza politica della dittatura attribuiva dei profitti a queste aziende che in una situazione normale non avrebbero fatto. Cioè, con l'autarchia gli davano quei profitti che gli hanno permesso di vivere, altrimenti questa cosa non avrebbe funzionato. Non avrebbe funzionato. Cioè, non c'è stato in realtà in Italia un capitalismo monopolistico se non come fasi intermedie. C'è stato un capitalismo oligopolistico, non monopolistico. Ora sono due cose diverse, perché monopolio sembrerebbe che c'è una unità di tutto l'alto capitalismo che domina tutta l'economia. Questo in Italia, tolto gli anni dal 33 al 40, non c'è stato. Qui ci sono stati sempre degli oligopoli che hanno lottato fra di loro. Se mai di nuovo in qualche momento dell'età centrista, se si può dire, no? Negli anni 50 c'è stato un tentativo di ricostituzione dei monopoli, ma poi non ha retto, perché contemporaneamente c'è stata la liberalizzazione degli scambi, quindi l'apertura dell'Italia alla concorrenza internazionale, della quale si è brillantemente affermata contro quello che pensavano i cosiddetti rappresentanti dei monopoli. Non abbiamo un'economia monopolistica in Italia, abbiamo un'economia in parte oligopolistica e in parte di concorrenza. Tanto la monopolistica in parte di concorrenza. I monopoli sono stati una fase transitoria. Naturalmente la Fiat è stato un monopolio. La Fiat è stata un monopolio, ma un monopolio per che cosa? Monopolio per la vendita delle automobili, non monopolio sulla vita economica italiana. Ha pesato moltissimo la Fiat sulla vita economica italiana, ma la vita economica italiana non è stata composta dai monopoli. La Fiat non ha mai dettato legge, ha sempre fatto dei compromessi con le altre grandi concentrazioni, tra le quali c'è sempre stato lo Stato in Italia. Come? Anche in macchina c'erano sempre altre. Sì, va bene, ma finché non si sono aperte le frontiere, finché qui non sono venute macchine tedesche e americane, la Fiat aveva un largo monopolio nel campo della vendita degli automobili, naturalmente le altre, l'Alfa Romeo, non potevano, quelle subivano la legge della Fiat. Ma se voi prendete, non so, i rapporti la Fiat, per esempio la Edison, non potete parlare di un monopolio. Qui sono due oligopoli, la Fiat e l'Eni, sono stati due oligopoli, e non si può dire che la Fiat abbia dettato legge a l'Eni, né del resto l'Eni ha dettato legge alla Fiat, e non si può dire neanche che sia cessata la lotta fra di loro. La lotta fra Fiat e Eni è una lotta che è andata avanti, ma questo a maggior ragione nel periodo trattato dal professor Pepe. Non c'è, non so, la prova è che l'Ansaldo, per esempio, e la Terni si combattono tra di loro durissimamente. Cioè, questo monopolio non c'è, quindi io starei molto cauto a queste tecnologie, così come starei cauto a, in questo caso sono disaccordo un po' anche con il professor Zanetti, starei un po' cauto a dire che i risultati sono stati molto scarsi, i risultati dell'azione sindacale. Se veramente fossero stati così scarsi, non si spiega perché gli industriali sarebbero stati interessati al fascismo. se tutto gli fosse andato bene dal punto di vista di riuscire a respingere l'avanzata della classe operaia, le conquiste sindacali operaie, che bisogno avevano del fascismo? In realtà del fascismo hanno avuto bisogno, del fascismo come squadrismo antioperaio, hanno avuto bisogno perché hanno dovuto fare molte concessioni. Le concessioni sono state, non vedete, guardate soltanto la statistica dei salari, tutte le mie riserve sul valore delle statistiche italiane, libro, le mie riserve sono maggiori sul valore delle statistiche italiane post 1945 che premi, perché post 1945 c'è una manipolazione politica all'Istituto Centrale di Statistica per soddisfare un governo. In governo mussoliniano e i governi precedenti non avevano bisogno delle statistiche per avere una maggioranza parlamentare, solo l'opinione pubblica non le chiedeva ancora. Quindi starei per dire che quelle sono quasi più veritiere, probabilmente sbagliate anche quelle. Però, in ogni modo, vedete nelle statistiche un certo aumento dei salari, quasi ininterrotto, sta oltre gli anni di guerra, dal 900 al 921, si accentua naturalmente dal 19 al 21, ma c'è anche dal 900 al 913, quindi si capisce che durante la guerra c'è una discesa, cioè inflazione e mancanza di merci. Voi invece dal 22 in avanti, dal 23 in avanti, vedete la netta discesa di salari. Quindi questo si spiega, c'era stata delle conquiste. Del resto, l'esperienza empirica, io sono vecchio, quindi io ricordo, vecchi operai che erano veramente in miseria, poi gli operai che hanno cominciato a pasta, meglio durante la vigilia della prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale, poi dopo la seconda guerra mondiale. Questi processi avvengono molto lentamente, poi non ci si accorge. Io ricordo, per esempio, negli anni 50 tutti parlavamo della miseria, della povertà che c'era in Italia. E all'improvviso ci siamo trovati in Italia invasa dal benessere. Cioè sono processi molecolari, piccoli aumenti del tenore di vita che poi a un certo momento si vedono. È chiaro che non c'è stato un processo di questa tesi, che era poi la tesi di Rosa Luxemburg, del lavoro di Sisifo dei sindacati, proprio in polemica con Bernstein. Nel 1903 lei scrisse il lavoro sindacale, il lavoro di Sisifo. Può essere vero in qualche situazione e ha una sua logica nella concezione di Rosa Luxemburg, che si aspettava il crollo del capitalismo per l'esaurirsi dello sfruttamento coloniale e dell'ambiente precapitalistico, ma non si è davvero totalmente verificato, neanche nel movimento sindacale italiano, a maggior ragione del movimento sindacale dei paesi europei più industriali, il che non porta niente contro le conclusioni del mondo. Le conclusioni di Rissolo, essere più cauti. Vorrei dire un'unica cosa ancora, tornerà su questo certamente, sulla questione molto interessante sollevata da Agnelli. Ci sono tre sindacati. C'è quello industriale, che c'è negli Stati Uniti, o non che c'è. Si cerca di farlo negli Stati Uniti, i sindacalisti rivoluzionari cercano di farlo, in realtà poi lo raggiungeranno in epoca rosberghiana, quando non saranno più rivoluzionari. Lo raggiungerà la CIA, ma era l'idea del vecchio sindacalismo rivoluzionario americano, One Big Union, la sola grande unione, che poi un politico del sindacalismo rivoluzionario, De Leon, molto apprezzato da Lenin e da Gramsci, teorizzò. Poi c'è il sindacalismo rivoluzionario localistico, Italia e Spagna. Reazione del localismo alla burocratizzazione dei sindacati di categoria. La CGIL non è sindacalismo industriale, è sindacalismo di categorie professionali. Rispetto alle quali il sindacalismo rivoluzionario fa l'opposizione localistica dal basso. Poi c'è la via di mezzo, che è dei francesi. Il sindacalismo rivoluzionario francese ha tre tappe. Prima, localistica, per lui. Seconda, quando si impadronisce dalla Confederazione del Lavoro, anzi quando la crea la Confederazione del Lavoro, UFS, che è una via di mezzo fra il localismo e la CGL italiana. La CGT e anche naturalmente la Confederazione Generale, cioè, ha una sua centralizzazione, cerca di evitare la burocratizzazione dei Rigola e i soci, di tenere il contatto con la base, con la elite delle masse. Poi nella CGT UFS è scardata anche attraverso una manovra politica nella quale interviene il governo, c'è la nuova direzione giù, nella quale si fa strada il sindacalismo industriale di Merai con i metallurgici. Quindi è una via di mezzo. Perciò direi che bisogna tenere presente che questi sindacalisti rivoluzionari avevano il peggio di leggere. Leggevano naturalmente soprattutto il francese, cioè del mouvement socialista, e lì venivano a conoscenza anche del sindacalismo industriale. E quindi, per esempio, nella mente di Corridori e degli altri organizzatori delle lotte automobilistiche a Milano e a Torino, anche se loro venivano da una protesta localistica, democratica, diciamo democrazia di base contro la burocratizzazione delle creazioni di categoria della CGL, però loro leggevano queste cose sulle grandi lotte americane e inglesi, quindi nella loro mente c'è anche un po' di sindacalismo industriale, che da vedere, è molto dubbio, sia riuscito a... Scusi, ha ancora un quarto d'ora. Io naturalmente sono un po' sommerso dai problemi e quindi da buon sindacalista tenterò di assumervi per grossi filoni, ovviamente scusandomi se non potrò dare risposte a tutti i singoli quesiti. Del resto credo che un dibattito abbia più importanza nella misura in cui si discute sulle cose di fondo che non sulle piccole questioni, anche perché più o meno siamo tutti competenti. Ora, mi sembra che i problemi sollevati possono essere riassunti in questo modo. C'è la contestazione di fondo del professor Gallinelli sull'analisi economica, sulla validità dell'analisi economica. Ma c'è nell'intervento del professor Zaninelli, mi sembra anche un'acuta osservazione sul fallimento della funzione propria della Confederazione come condizione per la politicizzazione, che indubbiamente andrebbe ulteriormente approfondita. C'è, direi, la parte che concerne le osservazioni che faceva il professor Malagorda, che sono altrettanto importanti e che riguardano appunto la Confederazione, l'egemonia delle masse, con tutto quello di implicito che c'è dietro. Osservazione del professor Agnelli, anche l'ultima considerazione del professor Valiani sul lento naturale della evoluzione delle classi sul piano proprio economico, e quindi sul giudizio caldo che bisogna dare sul comportamento dei dirigenti di queste organizzazioni. C'è la questione del ruolo del Parlamento e del rapporto tra sindacato e Parlamento, anche in riferimento alla evoluzione corporativa. E ci sono poi quel complesso di problemi inerenti alla guerra che sono stati sollevati. Ora, rapidissimamente, in breve, senza ulteriormente deviare, per il problema economico. Io, naturalmente, pur avendo letto a suo tempo e apprezzato le tesi di Romeo e la polemica con Gershwin, con tutti gli studi, ovviamente non posso non concordare sul fatto che e la parte statistica e l'interpretazione che Romeo dà è assolutamente insufficiente oggi, che sono necessari ampliamenti, che sono necessari approfondimenti quantitativi e qualitativi negli studi. Mi sembra che il tentativo fatto da Castronovo nella storia economica d'Italia avvicini un pochino il problema, però non lo esaurisca affatto. Mi sembra che una serie di contributi, viceversa, che si stanno muovendo nella ricostruzione della storia dei gruppi industriali, mi riferisco al Bonelli della Terni, anche se l'ho recensita, ma ci sono anche lì, mi sembra, delle lacune in quel volume di Bonelli, forse poteva essere qualcosa di più. I volumi importantissimi, io ritengo, di Confalonieri sulla banca commerciale, cioè di veramente volumi molto importanti. Ecco, questo tipo, cioè, dico, di studi che stanno un pochino disaggregando queste grosse teorizzazioni sul modello e stanno portando un pochino il discorso sui soggetti, con ciò stesso ampliando la problematica, perché portando il discorso sul soggetto ci si avvicina di più a tutto un ventaglio di problemi che prima sfuggivano: la politica dell'organizzazione industriale, la politica salariale, la politica delle commesse, i dividendi, i profitti e così via. E quindi, in certo qual modo, ci si avvicina molto a concretizzare di più, maggiormente, e quindi anche a dare quella dimensione quantitativa ai fenomeni che mi sembra il professor Valiani ha sempre sottolineato. Nel senso che bisogna prendere atto che sono statistiche parziali, tuttavia però una quantificazione è comunque necessaria perché ci fornisce alcune linee di tendenza con tutti i rischi Mi sembra che questo, le quantificazioni che possono venire fuori da indagini di questo tipo siano molto interessanti. Tuttavia, io vorrei dire che personalmente mi sono occupato, dopo gli studi sulla CGIL, dal punto di vista del movimento operaio, ovviamente, di questo problema, esplicitamente avvertendo le carenze. Noi sappiamo, non starò a ripeterlo, per esempio, noi conosciamo in maniera estremamente superficiale l'evoluzione del salario in Italia. Non conosciamo bene la struttura contrattuale, non conosciamo le federazioni di mestiere, non conosciamo la storia effettiva delle camere del lavoro e così. E quindi non conosciamo poi la tecnica sindacale, le ripercussioni. Ecco, per un pochino venire incontro a queste lacune, io ho cominciato a studiare con una certa sistematicità la vita interna delle aziende, il rapporto alla forza lavoro. Anche qui siamo tutti consapevoli dei limiti di questo tipo di impostazioni aziendalistiche o per gruppi, eccetera. Però il bollettino dell'ufficio del lavoro, che è una fonte abbastanza ricca, pubblicava delle relazioni sugli scioperi, partite dal 1904-5, per arrivare appunto ai grandi scioperi del 13-14, dei metallurghi, che a mio giudizio sono una ricchezza notevole, su tutti gli aspetti della condizione operaria, e indirettamente sono estremamente indicativi anche per quegli aspetti più propriamente economici che sottendono. Voglio dire che non possiamo fare una discussione teorica qui sullo sviluppo capitalistico, eccetera, ovviamente. Io mi limiterò a osservare, oltre alle considerazioni del professor Panamore, che il problema dello sviluppo capitalistico, dello sviluppo industriale, non può essere semplicemente misurato su parametri econometrici, che il grado di sviluppo industriale va visto anche in relazione alle forze sociali che da quello sviluppo traggono conseguenze. Ebbene, allora, se noi esaminiamo per esempio queste relazioni sulla conflittualità, noi vediamo che il tipo di conflittualità che viene fuori è un tipo di conflittualità di capitalismo industriale maturo. Io mi rendo conto che ci si trovava di fronte ad aziende di dimensioni ridotte, ad aziende che avevano molto probabilmente una struttura economico-commerciale che non poteva minimamente essere assimilata né a quelle successive né a quelle di altri paesi, eccetera. Però mi trovo di fronte a una rivendicazione operaria, a un tipo di lotta, a una risposta padronale, cioè tutti quegli elementi che costituiscono la conflittualità, la lotta di classe, noi diciamo con termine più generale, che sono tipici di un capitalismo industriale. D'altro canto, l'organizzazione padronale che comincia con il 6, la Lega Industriale di Torino, ma che aveva già alcuni fermenti precedenti, se la si esamina con un po' di attenzione, è un atto politico, ma è anche un atto economico. È il tentativo di rispondere, a Torino in particolare, a un problema che era divenuto abbastanza drammatico, cioè la lotta interaziendale sul mercato del lavoro. Ora, la lotta aziendale sul interaziendale sul mercato del lavoro per controllare la quantità di forza lavoro e il livello dei salari sorge quando ci si trova in una fase di sviluppo economico che non è più prevalentemente agricolo manifatturiero, ma che ha già delle connotazioni industriali. Ora, il problema, a mio giudizio, riguarda la valutazione del ritmo di questo processo, della sua diffusione, e poi l'osservazione avuta dal professor Bagnani del rapporto tra uno sviluppo monopolistico e uno sviluppo oligopolistico. Ora, il grado di diffusione indubbiamente è limitato, su questo non ci sono dubbi, è una concentrazione selezionata territorialmente, è una struttura che è basata su opifici, su industrie che hanno una dimensione che noi potremmo definire media, Il ritmo però con cui avvengono le crisi favorisce al massimo una modificazione rapida e impedisce che questo tessuto si consolidi, di modo che la struttura economica italiana è sì caratterizzata da alcuni oligopoli e da una struttura disseminata, però è al tempo stesso caratterizzata da una dinamica interna acceleratissima, di cui la guerra sarà un pochino l'epicentro, e il dopoguerra con i mancati problemi ne diventerà sul piano sociale poi l'espressione più drammatica. Cioè voglio dire che la pressione che gli oligopoli, usiamo la terminologia, che gli oligopoli hanno esercitato su tutta la struttura industriale del paese è stata così intensa da destabilizzare, diciamo, in linguaggio sociologico, rapidamente quel tipo di struttura. Su un problema, secondo me, molto importante, è avvenuto questo. Su due problemi. Il problema della forza lavoro, perché questo tessuto industriale ha costituito, diciamo così, il retroterra della formazione di una forza lavoro che altrimenti era non qualificata, non adatta a quel tipo di impiego produttivo. E su un secondo aspetto decisivo, quello dei finanziamenti, quello del mercato dei capitali, su cui Bonelli ha scritto a sufficienza. La crisi del 7 è poi in realtà questa. Ci si trova di fronte a un'industria che ha una necessità di investimento per unità produttiva così alta che si può realizzare soltanto sottraendo capitali a tutto il resto dell'economia, e soltanto, cioè, canalizzando tutto il finanziamento nelle grosse concentrazioni che è possibile uscire fuori da quella crisi. La crisi del 7 è una crisi di dispersione di capitali. Lei ricorda il Fargiano, quando analizza il 1904, parla di questo capitale che va a pioggia dovunque, in qualsiasi iniziativa. Ci si rende conto nel 7 che non può andare avanti così, cioè che il sistema non si riproduce così. In questo modo il sistema va nell'impasto. Il sistema si riproduce se si ha una centralizzazione del capitale, e se questa centralizzazione gestita, non a caso nel 7 la Banca d'Italia ha il ruolo che ha, se questa gestione è centralizzata ed è finalizzata soltanto al grande investimento, all'investimento concentrato. Questi sono gli elementi, diciamo, che giustificano. A partire dal 7 poi io aggiungerei che un terzo elemento sorge, ed è l'elemento della razionalizzazione produttiva. Noi sappiamo, e io l'ho verificato sul piano dell'occupazione e delle lotte. Noi dal 7 assistiamo a una quantità impressionante di lotte per la difesa dell'occupazione e per il contro i licenziamenti della ristrutturazione, che avvengono poi in tutto il tessuto produttivo industriale italiano, non soltanto l'esempio tipico dei vetrai, del grosso trust dei vetrai che nell'11 è noto, no? Ma anche in tutta una serie di piccolissimi uffici nelle industrie etiche, nelle industrie legate all'edilizia, nell'industria tessile, nell'industria meccanica, nella siderurgia, eccetera. Tutto questo porta nel 1913, che è veramente un anno cruciale, a una situazione, 13-14, a delineare una situazione che, a mio giudizio, presenta proprio le caratteristiche della crisi industriale. Della tipica, forse quella del 13, è la prima crisi industriale che sia in Italia. Io ci sto scrivendo un libro sul rapporto tra lotta di classe e crisi industriale del 13, e ho un po' analizzato, e mi sembra proprio che quella del 13 è proprio la prima crisi industriale derivante non, cioè, da un meccanismo bloccato nel rapporto tra agricoltura e industria, perché non si ha questo, non è come le precedenti crisi che derivano dalla difficoltà dell'edilizia o dal blocco dell'agricoltura, no, è proprio il circuito chiuso dell'industria. Bisogna spezzare il circuito chiuso dell'industria nel rapporto tra investimenti, caduta del profitto e rilancio dell'accumulazione. Questo apre un ciclo diverso. I nuovi investimenti si rifaranno sulla nuova razionalizzazione e si rifaranno sulla nuova concentrazione della guerra. E si rifaranno, rispondo all'osservazione che faceva lui, su una nuova classe operaria. Perché è dal 10-11 che in Italia si forma una nuova classe operaria. Si forma quel tipo di proletariato meccanizzato, razionalizzato, quell'operaio ormai ha perso larga parte della propria professionalità. L'aspetto tecnologico, ecco, c'è l'aspetto tecnologico contraddice questa evoluzione che sarebbe avvenuta, perché la tecnologia non è più un problema. Esatto, ma il problema contraddice la tecnologia, vuol dire che tutto il resto è speculativo. Cioè lei pensa che anche durante la guerra durante la guerra non ci sono dubbi dell'innovazione tecnologica, ma questo indubbiamente è un elemento da verificare, io comunque ritengo che la mancanza di tecnologie innovative è stato compensato in Italia da una maggiore da un maggior grado di sfruttamento in pieno della forza lavoro, non solo, ma è stata anche compensata, io credo, da un sistema di organizzazione nei maggiori complessi del ciclo produttivo complessivo, e senza arrivare all'introduzione della tecnologia innovativa, tuttavia riusciva a ridurre e compensare alcuni squilibri dei costi. Io penso per esempio alla tendenza dell'Ansaldo a divenire gruppo integrale, cioè penso alla tendenza della Fiat ad agire sul mercato dei capitali oltre che sul mercato del lavoro. Questo tipo di strategia che ha delle forti componenti speculative, per esempio della Fiat, no, nel caso in cui Agnelli addirittura scava la galera, sono no, c'è questa componente speculativa. E tuttavia ritengo che l'insieme di una possibilità di super sfruttamento della forza lavoro e di questa capacità di organizzazione abbia in parte compensato. Molto interessante il verificarsi di una situazione in cui noi abbiamo una struttura che è una struttura, diciamo, oligopolistica per alcuni versi, con scarsa innovazione tecnologica. È un elemento di differenza, secondo me, rispetto agli altri paesi, dove viceversa il monopolio, l'oligopolio, è avvenuto anche e soprattutto attraverso l'innovazione tecnologica. È, secondo me, un elemento di differenza che caratterizzerà il nostro capitalismo e che, fra l'altro, per molti versi è all'origine delle teorie stagnazioniste sul nostro capitalismo. Cioè tutte le teorie restrizionistiche, stagnazionistiche, partono dal presupposto che il nostro capitalismo non è innovativo, non è tecnologico. È di qui è aperto un dibattito, perché poi è chiaro, dopo la guerra, la questione degli anni 30 ha avuto un'importanza decisiva, eccetera. Per quanto riguarda la questione del rapporto che poneva il professor Managorda, poi variamente ripreso. Ecco, io qui farei una osservazione che in realtà mi veniva già quando uscì il mio libro, e Spriano aveva appunto questo aspetto. In realtà io credo che vada fatta una differenza tra la confederazione come gruppo dirigente confederale e la struttura sindacale di cui professor Zaninelli giustamente ricordava la articolazione, perché noi abbiamo all'inizio del secolo esattamente una struttura sindacale in Italia di una complessità incredibile. Noi abbiamo leghe, camere del lavoro, federazioni, organismi nazionali delle camere del lavoro e organismi nazionali delle federazioni, il segretariato centrale e così via. È pluralismo. Cattolica, esatto, io non ne ho parlato, ma aggiunge ovviamente. Esatto. Ora, la Confederazione quando nasce indubbiamente come un tentativo di dare una risposta nazionale, un coordinamento, una direzione nazionale all'insieme di questa struttura sindacale esistente, e nasce su una intuizione corretta del gruppo dirigente riformista. Io uso riformista prima delle osservazioni che giustamente si facevano ieri a proposito della distinzione di gradi, se gradi al riformista. Il gruppo dirigente riformista ha un'intuizione corretta, e cioè che la lotta politica ha una dimensione nazionale. Da questo deduce che se la lotta politica deve avere una dimensione nazionale ci vogliono organismi sindacali nazionali. C'è tutta però un'altra implicazione in questo discorso, che è tutto antisindacalista, antilocalismo, anticamere del lavoro, nella misura in cui lì erano annidati i sindacalisti rivoluzionari. Però il punto fondamentale qual è? Quello che io ho cercato di dire quando ho parlato dello SCAR è che il gruppo dirigente confederale ha avuto una sua storia in larga parte avulsa dalla storia delle camere del lavoro e delle federazioni di mestiere. Cioè, mentre noi oggi non potremo fare la storia del gruppo dirigente confederale, della segreteria o del Consiglio nazionale della Federazione Unitaria, avulso dalla storia della segreteria della Camera del Lavoro di Torino, di Milano, la storia della FIOM, eccetera, c'è un intreccio strettissimo. Questo intreccio non si realizza in Italia. E qui mi sembra che l'osservazione di Massarenti, che il professor Bagnani riportava, coglieva esattamente questo aspetto. La mancanza di egemonia e direttamente sulla classe operaria perché era sempre filtrata da Camere del Lavoro e Federazioni di Mestiere, derivava a sua volta dalla mancanza di egemonia della CGIL sulle strutture sindacali intermedie. Allora, il problema che il professor Malaporta solleva. Però c'è molte Camere del Lavoro. Erano contrarie. Non c'entrava niente, tant'è vero che le statistiche mi pare danno 800.000 iscritti nelle Camere del Lavoro e meno di 400.000 alla CGIL. Esatto. Ora, il problema che il professor Malaporta sollevava, teoricamente anche corretto, perché bisogna intenderci il concetto di egemonia anche in rapporto alla lettura dei testi di Gramsci, pone questo problema. Forse la questione dell'egemonia va tutta ancora studiata e il terreno adatto è proprio la Camera del Lavoro e le federazioni di mestiere. Forse è lì che noi riusciremo, ecco perché io ho tentato con quella cosa sulla Camera del Lavoro di Roma, attraverso i documenti, di concretizzare di più il discorso, perché il discorso della CGL rimane inficiato da questo dato di fatto, che la CGL in realtà nella sua vita interna fu molto, per larghissima parte, caratterizzata da una logica interna. Era questo gruppo che si aggiungeva ad altri gruppi sindacali e che riuscì soltanto in maniera burocratica a stabilire certi canali di controllo sull'intera struttura sindacale, ma che poi nei momenti decisivi, diciamo degli esempi pratici, l'esempio più clamoroso è quello del 13, quando la Camera del Lavoro di Milano si rifiuta di seguire la disciplina confederale e fa invece lo sciopero insieme ai sindacalisti rivoluzionari, e la confederazione va in crisi e Rigola si rimette nel luglio, Rigola si rimette. Ma di questi episodi di mancato controllo, la Camera del Lavoro di Roma si scinde variamente, ci sono pure due Camere del Lavoro e così via, le federazioni hanno anch'esse una vita tutta per l'altra parte autonomo, che c'è. Allora ecco, il problema della egemonia di noi, il problema del rapporto CGL e strutture sindacali, il problema tra queste strutture sindacali e le masse. E lì il problema è tutto da verificare, perché io lì concordo con Malaporta e con Mariani quando dicevano che lì la compenetrazione era maggiore. Lì il grado di adesione e di rispondenza ai bisogni delle masse e anche l'azione fatta, azione svolta, promossa, eccetera, hanno un mondo unico e una rispondenza maggiore. Non a caso la CGL si ricostruisce sulle Camere del Lavoro. Non è il caso. Ecco, non so se... Chiarissimo, la discussione è fondamentale. Lei adesso ha risposto a questa parola. Sì, una sua ultima risposta, poi abbiamo finito. Ah sì, non potrebbe forse parlare dopo. No. Cioè, secondo me sono... Ma forse converrebbe rinviare, perché io ho l'impressione che forse il professor Zanelli abbia qualche cosa da dire, forse un supplemento di discussione del potremmo potremmo avere, e allora sospendiamo perché ci aspetta una colazione. Sì. Forse il professor Zanelli cosa, così poi chiude il professor Conte dopo la relazione del professor Cipate. Ma no, molto brevemente, perché queste cose sono importanti via troppo. Ecco, ci sono due questioni che sono venute fuori dalla risposta e dalla discussione che mi interessano in modo particolare. E soprattutto mi interessa l'accenno che ha fatto il professor Pepe ai suoi tentativi di capire per una strada, non dico secondaria, insomma, ma non diretta, no? Quello che è stato il tipo di sviluppo industriale italiano, l'età italiana, la guerra e nel dopoguerra. Intanto è venuta fuori una cosa importante, cioè probabilmente si conferma che la ricostruzione della crescita economica italiana di questo periodo si ricostruisce anche con il contributo dei storici sociali, insomma, no? Date proprio le sue peculiarità, la sua. Suo collocarsi dentro un ambiente come quello italiano, che non è mai riuscito, secondo me, ad essere veramente genericamente industriale, quindi con tutte le implicazioni di una realtà economica e sociale che resta prevalentemente agricola, quindi legata a modelli, a comportamenti che male si riconducono, insomma, direttamente all'esperienza industriale. Ecco, però resta un punto di dubbio, insomma. Il professor Pepe dice: io, percorrendo questa strada non diretta, arrivo a concludere che il tipo di conflittualità che emerge dalla documentazione è una conflittualità tipica di un ambiente al capitalismo maturo. Io adotto un'altra categoria e dico tipico di un'industrializzazione di un tipo di industrializzazione di un industrialismo molto avanzato. ho delle perplessità, proprio per quel che riguarda l'azione sindacale, a misura in cui studiando l'azione sindacale, come dicevo prima, si può arrivare ad avere una visione del tipo di industrializzazione e di trasformazione che avviene. Perché? Perché quando, per esempio, si trova un tipo di azione sindacale che non riesce a concretarsi in una contrattazione collettiva, quando si ha un tipo di azione sindacale che, anche quando, dal punto di vista del salariale, dell'andamento dei salari nominali però, consegue certi risultati, ma in fondo gioca continuamente sul problema salari e orari di lavoro, quando sono in presenza di un tipo di azione sindacale che dentro al meccanismo contrattuale non riesce a porre quelli che sono i tipici obiettivi dell'azione sindacale dei paesi di industrializzazione matura, quindi non si scappa, insomma. Se vale semplicemente come riferimento quello che è stata la vicenda della contrattazione collettiva in Europa, così generalmente parlando, e si conclude che lì un certo tipo di industrializzazione matura porta la contrattazione collettiva a realizzarsi come tale e a non porsi solo degli obiettivi di natura meramente economica e salariale, ma tutti gli istituti di democrazia aziendale e industriale che funzionano. Laddove invece questo da noi non avviene, c'è un qualche cosa che non è soltanto, non permette solo di dire che questa è stata un'industrializzazione matura e peculiare. Questa secondo me non è stata che un accenno di industrializzazione. Ma mi viene in mente anche questo sul piano della documentazione, il fallimento clamoroso del provveditorato, che è una cosa di una banalità. Nel 93, la famosa legge che crea la legge sui propri figli, conflitti individuali di lavoro, che era l'ultima cosa che si poteva fare, proprio la più arcaica, neanche questa riesce. Riesce soltanto la conflittualità selvaggia, questa riesce. Ma la conflittualità selvaggia che cosa indica? Indica un ambiente maturo o un ambiente arretrato, industrialmente parlando, e avendo in mente certi modelli di industrializzazione. Ecco, questo è il punto che mi lascia perplesso, cioè può darsi che studiando meglio la contrattazione collettiva, ma solo dopo averla studiata, si possa concludere che gli esempi Italo, Fiom, Bossarino, eccetera, fossero molto più estesi di quanto conosciamo noi, ma se restano solo quelli con il loro fallimento, perché l'accordo Italo-Fiom non dura neanche un anno, e tanto non si realizza, perché tenta di introdurre certi meccanismi da contrattazione aziendale molto, molto avanzata. Quindi, metodologicamente è molto interessante quello che ha detto lei, però ripeto, la strada non diretta può dare buoni risultati, no? Però bisogna andare a fondo, diciamo, e non so a quali risultati portare. Ecco, l'altra questione, mi dispiace che non c'è il professor Maracorda, perché quella questione è dovuto partire. Lo so, maledetto, sì. E quel discorso sull'egemonia e in pratica poi sul tipo di industrializzazione. Io ho un'opinione che dire la verità non è neanche la mia, ma è quella di Romani, e Romani l'ha dimostrata per tre quarti di 800, e poi non ha potuto andare avanti, ma ritengo che possa essere estesa. Cioè, sostanzialmente credo che si possa dire questo, che noi abbiamo avuto un processo di industrializzazione incompleto, localizzato, ecco come ha detto lei, non finalizzato vuol dire che in esso gli elementi di occasionalità, di sporadicità, di improvvisazione sono determinati. Sono tali anche gli stimoli esterni, certamente in primo luogo, ma anche all'interno. Questo nostro operatore economico industriale, operatore economico e anche finanziario, in fondo vive la giornata. Vive molto la giornata e non riesce mai a creare una cultura di tipo industriale. Romani ha detto molto bene. Da noi chi crede, chi ha un'ideologia industrialistica, è un eretico, è Alessandro Rossi, per citare il caso, che poi si cita quel caso lì, non si riesce a citare altri perché non c'è nessuno. Ce n'è uno, anche lui si sentiva un isolato, Camillo Olivetti, Che scriveva tutto lo stesso per dire io sono un industrialista ma sono isolato. Alessandro Rossi, isolatissimo. No? Quindi anche questo fa capire, secondo me, e aiuta aiutare per l'interpretazione dell'azione sindacale, che questa azione sindacale non si colloca in un ambiente che vuole l'industrializzazione. Romani è arrivato a dimostrare, secondo me, in modo inconfutabile, almeno per tre quarti di Ottocento, che semmai se c'è una volontà, è quella opposta, di mantenere il paese in un equilibrio agricolo commerciale. E solo incidentalmente, per ragioni di prestigio, per ragioni di imperialismo, per ragioni assolutamente strette, ecco, si arriva a qualche manifestazione di tipo industrialismo. Se questo fosse vero, allora il discorso, come dire, anche della logica dell'azione sindacale e dei suoi risultati cambia notevolmente di prospettiva. Perché allora non si colloca più in un ambiente che aveva una volontà industrialistica a cui si può contrapporre, si colloca realmente che al loro posto non la vuole. E non si può chiedere esattamente al movimento sindacale di essere lui il protagonista dell'industrializzazione, che sarebbe una cosa addirittura fuori luogo, insomma, senza senso. Ecco, erano queste le osservazioni che mi venivano di... Scusi, professor Zanini, io vorrei porre una domanda. Non ho capito bene se parlavamo della stessa cosa. Lei ha detto che non possono essere più condivise le impostazioni di Romeo, ma si riferiva al risorgimento del capitalismo come ha pensato il professor Pergola, alla storia della grande industria? Alla breve storia della grande industria. Anche qui... Perché anch'io io avevo capito che lei si riferisse alla breve storia della grande industria. Certamente. Invece il professor Pippi le ha risposto per il risorgimento del capitalismo. Sì, è l'opera che si è rivelata da capo, il libro che adesso è uscito di Romani, il secondo volume di storia economica, che purtroppo arriva fino all'82, ha dimostrato l'errore dell'utilizzo dei dati dell'Istat per il periodo 59-81-82. Accumulazione dei girati. Esatto, che è la tesi di fondo, per tutta quella che ha detto tutto. Cioè, i dati non sono attendibili, sono stati utilizzati male. Era quella tesi di Lucero Romano. Sì, sta scritta Romeo. Certamente. Che non toglie che sia uno dei pochi libri che ancora si possono leggere. Sì, certo. Io purtroppo non ho ancora visto, saputo adesso che è uscito il secondo volume di Romano. Sì, non è ancora in commercio. È già freddo, esce viene messo in commercio penso tra 15 giorni, insomma, è quello già. Certo, molto importante. Grazie. Posso solo interrompere un momento? Quelli che non sono stati. Ma dopo era, cioè, mi sembra dovevo dare ancora una risposta sul problema del sindacalismo rivoluzionario e poi sulle questioni del Parlamento. Sul sindacalismo rivoluzionario, cioè, bisogna arrivare tanto a sottolineare una cosa. L'antico stimolo del professor Bagnani a studiare il sindacalismo rivoluzionario non si è ancora tradotto in una ricostruzione precisa di questa componente del movimento operaio. Il professor Iosa a Milano da parecchi anni sta studiando, però ancora non abbiamo una sistemazione complessiva sul sindacalismo rivoluzionario. Io non sono competente specifico perché ho affrontato questo problema, ma per quello che si intrecciava con i miei interessi. Tuttavia, io credo che le considerazioni e le suddivisioni che faceva il professor Bagliani siano molto valide e ci possano aiutare anche per capire un pochino meglio il sindacalismo rivoluzionario in Italia. C'è stato di recente, credo voi l'avete visto a Piombino, una condanna. No, non ho visto gli atti. Ah, ecco, ci sono gli atti pubblicati. Non si trova, è difficilissimo. Esatto. C'è stata una relazione del professor Romiti, non c'è neanche mai. C'è stata una relazione del professor Romiti e poi una serie di contributi. Non siamo ancora, io credo, appunto, così, a un livello soddisfacente di approfondimento. Tuttavia, alcune cose vengono fuori che in parte anch'io avevo ritrovato studiando con la CGL, e cioè il sindacalismo rivoluzionario ha una storia abbastanza ben periodizzata, sorge con caratteristiche specifiche legate alla situazione del Mezzogiorno e del Partito Socialista, e su questo non ci sono dubbi. Però il sindacalismo rivoluzionario nel 1905 controlla il segretariato centrale della resistenza, cioè il massimo organismo rappresentativo di tutto il sindacalismo prima della CGTN. Il 1905 è un anno importante per vari avvenimenti, la nazionalizzazione delle ferrovie, eccetera. È anche importante perché ci sono alcune lotte, in particolare dopo dei ferrovieri, nel corso delle quali i sindacalisti rivoluzionari perdono l'occasione importante di divenire essi i protagonisti della trasformazione del segretariato centrale della resistenza nella struttura confederale. Cioè loro avevano, in qualche modo, controllando il segretariato centrale della resistenza, acceduto all'idea della dimensione nazionale della lotta di classe dopo l'industrializzazione. Soltanto che hanno fatto un errore politico. Si sono fatti giocare, diciamo, dai riformisti, da Verzi in particolare, dalla Fion, il quale appunto nel febbraio del 6 prende l'iniziativa, non riuscendo a sovvertire dall'interno la linea del segretariato centrale, di costruire un nuovo organismo a dimensione nazionale che, sostituendo il vecchio segretariato centrale, scalzasse i riformisti dalla direzione del movimento operaio e al tempo stesso sostituisse una struttura organizzativa diversa, più adeguata. Questo errore politico dei sindacalisti rivoluzionari sarà pagato ancora più duramente da un successivo errore che loro fanno quando sottovalutano l'iniziativa dei riformisti e all'interno del congresso di Milano non sostengono la lotta politica con i riformisti sulla linea della nuova confederazione, ma in pratica pongono soltanto delle questioni pregiudiziali, ma poi lasciano al gruppo dirigente appunto di Ricola di gestire in maniera completamente autonoma sia la definizione della strategia politica sia, cosa ancora più importante, la struttura organizzativa della CGIL. Loro contrappongono a un certo punto un controprogetto di statuto, su quel controprogetto di statuto richiedono la votazione, però in realtà ormai avevano già fatto una votazione su una questione pregiudiziale sulla legittimità, cioè della convocazione del congresso. Sono sconfitti su quello, abbandonano il congresso. Da questo momento noi dobbiamo considerare la storia dei sindacalisti come completamente diversa dal periodo precedente. Cioè, nel momento nel quale i sindacalisti rivoluzionari sono sconfitti al congresso di Milano e lasciano in toto la CGTN in mano ai riformisti, la loro storia sarà caratterizzata da due distinte fasi. Una prima fase, che è quella di dire: rimaniamo dentro e costituiamo l'opposizione interna, collegandoci con altre forze di opposizione, i repubblicani, per esempio, che mal tolleravano la egemonia socialista sulla Confederazione. E costituiamo, come faranno a Bologna, un comitato dell'azione diretta che coordini tutte le camere del lavoro, i sindacalisti rivoluzionari, per fare una battaglia interna, cioè per modificare la linea politica della Confederazione. Questo va avanti fino al 1907-8 e coincide con la punta massima della presenza dei sindacalisti rivoluzionari nelle lotte agrarie in Parmensa. Questo però è lo stesso periodo nel quale la CGIL si consolida. Loro erano convinti di riuscire a scalzare i dirigenti confederali, anche perché, non vorrei abusare troppo, però alcune piccolissime notizie, anche perché nel 1907 la struttura confederale era ancora sostanzialmente debole, i ferrovieri andavano per conto loro, c'era una radicalizzazione incredibile, molte camere del lavoro, e i sindacalisti rivoluzionari erano convinti di riuscire in breve orgine di tempo a capovolgere la direzione politica della confederazione. Ora, in realtà, invece, durante questi due anni, il gruppo dirigente confederale realizza il proprio consolidamento politico e organizzativo e stromette definitivamente i residui presenti del sindacalismo rivoluzionario in alcune camere del lavoro affiliate, esempio tipico è quello di Parma, il rifiuto della affiliazione alla CGIL della Camera del Lavoro di Parma è proprio un esempio più tipico. E contemporaneamente i sindacalisti rivoluzionari grosso modo gestiscono quella grossa esplosione di lotta agraria che è quella del Parmense, che però finisce come finisce. Da questo momento inizia una seconda fase della storia del sindacalismo rivoluzionario post nascita CGIL. Ed è una fase nella quale, ad un periodo di sbandamento notevole, che è quello che va dall'8, 9, 10, sbandamento anche del tessuto organizzativo, ci sono certe riflessioni amarissime di Olivetti, per esempio, sebbene teoriche, però insomma rivelano chiaramente questo senso di frustrazione, di sbandamento, questa precarietà, scompare il comitato dell'azione diretta, non è più ritenuto lo strumento valido, e comincia a maturare lentamente, viceversa, la dolorosa convinzione della costruzione di un organismo, di un controorganismo sindacale nazionale, cioè di una controorganizzazione sindacale, che poi diventa l'USI nel 1912. Questo è un elemento. Un secondo elemento, ancora più importante, e veniva fuori appunto dal convegno di Piombino, è da ricercarsi in due fenomeni che io accenno ovviamente, ma che non si possono approfondire. E cioè, da un lato, a partire dal 1910-11 e poi 12-13, la composizione della classe operaia si modifica e andiamo a una, diciamo così, comparsa più massiccia di una classe operaia meno professionalizzata e più legata alla meccanizzazione dei processi produttivi che in parte si erano verificati negli anni precedenti. Questa classe operaia è completamente sottratta all'egemonia confederale, cioè la CGL, le Camere del Lavoro e le federazioni non controllano questo nuovo tipo di classe operaia che ha una collocazione aziendale e degli interessi che non rientrano nella tradizionale strategia della CGL. Dall'altro, i sindacalisti, proprio analizzando questo fenomeno, compiono lo spostamento più significativo della loro storia. Lo spostamento, cioè, dal sindacalismo rivoluzionario con base agraria al sindacalismo rivoluzionario con base industriale. E trasferiscono massicciamente i loro principali organizzatori sindacali nelle realtà di punta, Torino, Milano, però non soltanto Torino, Milano, Bologna, Modena e in alcuni sindacati decisivi, metallurgici e edili. Nel 1913 noi assistiamo a un prorompere della conflittualità di quel tipo di operaio completamente, cioè completamente al di fuori delle linee confederali, i cui unici dirigenti saranno appunto i sindacalisti rivoluzionari. Gli unici dirigenti, non tanto a Torino, dove a Torino l'esperienza di Zocchi finisce in maniera abbastanza tragica, dove la FIOM diretta da Bozzi riesce a prendere il controllo. Sì, esatto. L'esperienza è disastrosa. È disastrosa, infatti a Torino... La FIOM ci sarebbe stato un risultato. Anche se io, esaminando con un pochino più di attenzione, poi il risultato dello sciopero automobilistico di Torino del 13, quello gestito dalla FIOM, non concorderei neppure con Castronovo nel giudicarlo sostanzialmente così dì. In realtà la conclusione di quello sciopero ristabilisce un rapporto tra FIOM e masse, ma nel contenuto sindacale è uno sciopero che rivela la arretratezza a cui la classe operaia era stata spinta da un'intransigenza padronale notevole. Sia le conquiste salariali che le conquiste normative sono estremamente scarse dal punto di vista concreto, e direi che la classe operaia rientra in fabbrica con molto malumore. Comunque non è tanto Torino che diventa il punto più importante. Il punto più importante diventa Milano, Bologna e il complesso dei lavoratori meccanici ed edili. A questo punto il sindacalismo rivoluzionario tenta effettivamente la carta della decisa trasformazione in senso industrialista. Tenta la carta della trasformazione sia con la relazione di Corridoni al congresso, ma sia più che altro con l'inserimento effettivo nelle lotte operarie. Ed è dei sindacalisti rivoluzionari il primo tentativo, per esempio, di portare delle innovazioni nella tecnica. Rivoluzionario come forza estrinseca al movimento operaio italiano, e il sindacalismo rivoluzionario viceversa come punta lucidissima avanzata che aveva capito tutto della situazione di classe in Italia. Viceversa, ecco, dico, va collocato politicamente, va visto il loro comportamento e le loro riflessioni teoriche, vanno viste nel concreto della lotta politica e di classe che si svolge in Italia. Per quanto riguarda la questione del Parlamento, ne ho parlato un attimo prima per la parte che riguardava il professor Ulrich, perché anche lui si è dovuto assentare. Ecco, io penso questo: una depressione del Parlamento, lo ricordava anche il professor Pandrusca, credo che abbia uno spettro geografico più largo dell'Italia, e si estenda anche ad altri paesi europei. Per quanto riguarda l'Italia e il rapporto tra sindacato e funzione del Parlamento, le osservazioni già che faceva il professor Agnelli qui trovano concorde in toto, quindi non le ripeto. Vorrei anche qui però periodizzare il fenomeno, perché come al solito le questioni non vanno viste soltanto nelle loro costruzioni teoriche, sono sempre il risultato di rapporti di forza e di scelte politiche spesso. Cioè noi abbiamo la CGIL che dal 1907-8 al 1910-11 corsa contro uno Stato che effettivamente è inadempiente, non riesce per quell'accordo legislativo che si era creato, perché i problemi da risolvere erano diventati veramente, in pratica in Italia c'era soltanto un paio di leggi, c'era la legge sulla protezione delle donne e dei fanciulli e c'era la legge sul riposo settimanale. Però l'ispettorato del lavoro, cioè l'organismo che doveva controllare l'ora in fabbrica, e se voi leggete, ci sono due volumi importantissimi del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sulle relazioni degli ispettori del lavoro, e viene fuori un quadro pesante di impotenza, di incapacità, di non volontà di accertare le reali condizioni di applicazione della legge. Però non era solo questo, era l'impasse generale di tutto un atteggiamento legislativo su materie anche più generali. Tuttavia, il professor Ulrich coglieva un aspetto molto importante, cioè in questi anni la CGIL punta molto sul rafforzamento del Parlamento e lavora intensamente affinché nel Parlamento si vada a un rinnovamento e a un potenziamento. Il punto di svolta, il punto di passaggio, è indubbiamente la guerra di Libia. È la guerra di Libia e è quella che poi Carocci ha descritto abbastanza bene, la manovra giolittiana di Dopp Tedes su guerra di Libia e alcune riforme tipo suffragio universale, monopolio, eccetera. Cioè è lì il momento nel quale il sindacato comincia a prendere coscienza dell'accantonamento a cui di fatto il Parlamento è sottoposto sul piano puramente politico. Altro elemento decisivo che bisogna tener conto è che la CGIL puntava su Giolitti, sullo Stato giolittiano e sul Parlamento e sulle sue articolazioni, prefetti, deputati, eccetera, in riferimento alla conflittualità, perché questo era il sistema di mediazione del conflitto per uscire fuori da quella condizione selvaggia di cui parlava il professor Zaninelli prima. Quando nel 13 però Giolitti, di fronte allo sciopero di Torino, è costretto a non è più in grado di mediare e deve imporre la soluzione del conflitto dicendo a Bonnefoy Traponte, al capo degli industriali, o tu accetti, revochi la serrata, o io ti caccio dall'Italia perché sei francese, quando si arriva a questo punto la capacità di mediazione politica dello Stato non c'è più. Ormai lo Stato praticamente non è più in grado di incanalare la conflittualità nell'alveo delle istituzioni di mediazione, ma ha una di confronto diretto. Questo secondo elemento è, direi, molto importante nel far crollare nella visione del sindacato il ruolo, il significato dello Stato come organo di superiore sintesi di interessi contrapposti. Caduta legislativa, inerzia legislativa, scarsa capacità di mediazione dei conflitti, a questo punto tutto il disegno confederale non trova più nello Stato una ovviamente, però anche questo ha la sua sanzione nella guerra, perché senza stare di mezzo, è solo la guerra che poi trasforma lo Stato in un grande organismo amministrativo burocratico economico. Le cose che ha scritto Ragionieri ultimamente, molto interessanti sulla storia d'Italia, le cose di Castronovo, mi sembra appunto dimostrano anche questa continuità dello Stato ministero, dello Stato apparato e così via. E la guerra evidenzia e moltiplica al massimo. E quindi è lì il punto di svolta che poi porta a quell'atteggiamento successivo. Infine, le ultime cose che il professor Zaninelli sottolineava oggi pomeriggio. Ma io dico questo. La questione della contrattazione, per esempio. Ma la questione della contrattazione è indubbiamente molto, ancora molto poco studiata. Io ho trovato una notevole quantità di contratti collettivi. I contratti collettivi vengono dopo una fase nella quale i rapporti di lavoro erano stati regolati da tariffe. Le tariffe, cioè, stabilivano soltanto i salari e l'orario, generalmente. Il contratto collettivo è qualcosa di più. Il contratto collettivo ha varie dimensioni. C'è la dimensione prima, quella aziendale. Il contratto collettivo, in genere, vita la Fiorma, la Polsanino, eccetera, sono contratti aziendali, tra tutte le maestranze di una fabbrica e la direzione. Ci sono però, già nel nome, dei contratti, per esempio i muratori di Torino, il contratto del vetro, fatto tra i vetrai e il trust del vetro, era una società monopolistica, ci aveva 20.000 lavoratori in tutta Italia, con oltre 25 aziende da Venezia a Napoli, che ha invece un carattere di gruppo, un contratto collettivo di gruppo. Non esistono contratti di categoria settoriale, questi non esistono. Ora, questi contratti in realtà contengono al loro interno, hanno una logica. Il contratto collettivo si basa su questo scambio: il riconoscimento del sindacato come agente contrattuale, scambiato con il controllo della conflittualità, o meglio, con la prevedibilità della conflittualità, e in alcuni casi con il riconoscimento della commissione interna, la quale commissione interna ha tuttavia un compito che poi in parte riprenderanno gli stessi consigli di fabbrica, di essere un organismo tecnico di risoluzione intanto dei conflitti individuali e poi di collaborazione produttivistica. Però non è questo l'aspetto più importante. L'aspetto più importante è l'altro. Cioè, nel contratto collettivo i lavoratori si impegnavano generalmente per la durata del contratto a non scioperare. In cambio il sindacato otteneva appunto il riconoscimento formale dai padroni e i relativi aumenti salariali, genera la riduzione dell'orario e poi tutte le altre questioni. Ora, questo elemento è, secondo la mia opinione, estremamente importante, perché è l'elemento che più viene incontro alle esigenze dell'industria in quella fase. E cioè l'elemento che più viene incontro a quel bisogno di cui parlava il professor Pagliani, cioè il profitto. E non il potere. Più piano? No, anzi. Ah, sì. Perché dobbiamo. Più rapidamente. Perché c'è ancora una relazione. Chiudo rapidissimamente. Sì. Cioè, viene incontro esattamente alla esigenza di profitto e non all'esigenza di potere. E questo è confermato da un altro elemento che io. Il quale poi concludo eventualmente poi con il professor Zaninelli di prendere, e cioè il rifiuto costante di tutto il mondo industriale di quella che Olivetti, Gino Olivetti, uno dei più lucidi, definisce il dualismo di potere. La costante di tutto il mondo industriale in Italia è l'unità del mondo industriale in Italia. Fatti salve tutti i contrasti tra grandi aziende, piccole, tra gruppi torinesi, lombardi, eccetera. L'unità si realizza su questo fatto. L'industria non può avere una duplicità di poteri. Nell'industria è necessario il comando rigido, ferreo, della direzione aziendale, che è l'unica che risponde dell'espansione dei saggi del profitto, che è legalmente responsabile al Consiglio d'amministrazione. Ecco. Questo elemento, secondo me, questo elemento è estremamente importante, perché è un po' il filo conduttore intorno al quale si forma la classe industriale italiana. Chiedo scusa. Tante grazie anche per questa aggiunta alla discussione. Adesso viene il dottor Schauer.